può stare. Com'era? Così puoi giocare a LOL senza che noi diciamo nulla. Vabbè, tanto non mi dite mai niente lo stesso. Anche se gioco sempre a LOL. Ricordati di metterti anche il muto, se no sentiamo che giochi a LOL, cioè in breaky o cose del genere. Tra l'altro, per la prima volta dopo tipo 6 anni avrò una scrivania. In casa? Esatto. Direi che non possiamo partire Sì. questa. Dobbiamo par possiamo partire Incredibile. Ha questa rinunciato a letto, diretta. però ha Incredibile. voluto la scrivania. Sì, esatto. Non possiamo che partire questa diretta con un congratulazioni, Stalla, per la tua scrivania. Quindi, congratulazioni, liberissimo. E vabbè, comunque sì, ovviamente Io la. devo salutare il compagno romano che sta diventando un socialista ormai, con le sue condivisioni su Facebook. Anche se nel Socialista gioco, anche se, Jonathan ha anche, esatto, anche se giocato. nel gioco. Vabbè, Sempre cioè, fa finta socialista. ancora di Anche lì essere. era socialista in realtà. Nella migliore Schifo. tradizione ha ammazzato un altro il Esatto. suo compagno. Comunque, benvenuti, bentornati. Noi siamo Tycoons and Dragons, il GDR, e oggi giocheremo a La Maledizione di Katta. L'episodio è il 74. E con noi a sorpresa, come abbiamo detto, c'è Edoardo Saladini, oltre a me, Andrea Giacomo Vecchi, Giulio Ciao. Bosi, Marco Bosi, Edoardo Saladini che tra l'altro ritroviamo, quindi. Devo cambiare nickname. E l'altro, quello su, Stefano come si Bosi. chiama? Stefano Gamberoni. Ah no, si è spostato. Ah no, adesso Giulio mi è salito su perché. Ehi. Perché sono Switch. tornato a Atlas da Il Demiurgo. Ovviamente, insieme a noi non può che esserci Katta. Enrico Gattabriga, visto che è il master della sessione. Salutiamo invece a Visto che casa. le Esatto. maledizioni sono tutte per lui, ah no. Salutiamo a casa Francesco Arcidiacono. Oggi non sarà con noi perché abbiamo spostato, come avrete notato, la sessione dal classico lunedì al martedì. Colpa è ovviamente mia. E vi ringrazio per la La disponibilità. Virtus. Del Sì, simbolo che si vede in sovraimpressione, nello non specifico. era oggettivamente sostenibile, mi penso che mi sarei assentato a un certo punto, cioè magari vi avrei fatto andare avanti la diretta, ma non era Anche perché è stata sostenibile. una partita particolarmente noiosa, No, quindi. ma infatti ho fatto una sudata atomica. E va bene, dai, direi che possiamo partire e abbiamo qui con noi la sigla, ancora no? Yes. Ci abbiamo? 3, 2, 1. 3, 2, 1, sigla. Oppure no? Oh, ma soprattutto no. Dovrebbe essere partito. E io però Sì, non adesso sento. va. Ma Dov'è? forse è Devo stato bannato. guardare in È diretta per vero. vederla? No, no, ho fatto il bardo. Io non lo vedo il bardo. Beh, l'hai bannato. No, io non lo vedo. No, no, un secondo, faccio io. Morte. Vez l'ha distrutto. No, no, che volete? Io non lo Vabbè, tocco. sei proprio Ammesso. specialista, eh. Eccolo. Eccolo. Ora c'è. Bene, chi vuol fare il riassunto della scorsa sessione? Direi Salla. Madonna, ogni volta. Il punto esclamativo prima del play, Katta. Ah. Ecco svelato il mistero. Scorso episodio. Chi vuol fare il riassunto? Marco guarda in giro. Vabbè, faccio io tanto. Vai, Giulio, che sei il nostro riassuntista. Allora, negli episodi precedenti siamo arrivati al castello di Straddo, dove abbiamo lasciato le nostre armi e armature chi fuori dai Martinkov, chi agli attendenti che sono venuti ad accoglierci. Poi siamo andati un attimo nella sala dove abbiamo visto gli os altri ospiti e abbiamo fatto qualche chiacchierata in amicizia. Poi abbiamo incontrato Radin che ci ha detto che saremmo stati. La nostra incolumità sarebbe stata garantita fin tanto che non. Per la durata dell'evento, fin tanto che noi non avessimo cercato di, diciamo, andare contro Straddo o fare noi qualcosa di male. E ci ha chiesto di giurare che non avremmo fatto nulla. Noi, diciamo, abbiamo giurato. Con mille cose Abbiamo incrociate detto ovunque. fidati. Fidati. Io credo di aver tipo alzato un pollice immaginario perché ancora non avevo le mani. E poi siamo stati portati da Strad, abbiamo anche fatto un'altra chiacchierata con Strad e siamo stati portati in un'altra stanza per cambiarci e metterci dei vestiti più consoni all'evento, ma la cameriera si è trasformata nel nostro amico Angelo Ilia, che ci ha fatto ricrescersi entro le mani. Esatto, è un ottimo piano tariffario. Esatto. Al che siamo andati a esplorare, diciamo, il castello alla ricerca di armi. Uno dei Martin che è entrato dalla finestra e ha riportato alcune dei nostri averi che erano stati lasciati a loro prima. E poi siamo andati giù, dove io avevo visto che erano state portate i nostri averi, sostanzialmente. Siamo scesi nel castello fino ad arrivare a questo corridoio mezzo allagato, dove poi ci siamo inoltrati con una sfortuna che ha fatto crescere una passerella di terra che ha fatto scattare varie trappole, così non ce le siamo beccate noi. Io ho tipo scardinato una serie infinita di porte grate finché non siamo arrivati in una delle stanze laterali. C'erano due stanze laterali e poi più avanti un cancello che portava, diciamo, a dove pensiamo siano stati messi i nostri oggetti, dove tra vari cadaveri incrociamo uno che è ancora vivo. Un cadavere ancora vivo? No, una persona ancora viva. La persona ancora viva si scopre. Beh, in questa campagna la cosa in realtà non è sorprendente. Sì, è vero. Esatto. La persona ancora viva si scopre essere il cadavere ancora vivo è Salla, credo, in questo momento. Il beta di Giulio. Esatto, il lupo mannaro, compagno della tizia del branco di cui io avevo ucciso il capo, che aveva preso il posto di questo qua, e di cui avevamo salvato i bambini che avevano catturato e tenuto imprigionati. E poi avevamo fatto un accordo con con questa tizia che non ci avrebbe più disturbato. Infatti da allora i lupi mannari non hanno più attaccato o dato rogni a noi e ai nostri protetti di Kresk. E quindi, dopo aver capito che lui era sta persona, io praticamente gli ho detto: bene, tu adesso mi servirai, e lui ha detto sì, certo, capo branco. Esatto. E quindi siamo andati con questo nuovo questa nuova aggiunta, abbiamo continuato l'esplorazione e siamo arrivati nei pressi di questo cancello, dietro al quale presumiamo ci siano i nostri averi e anche altre cose. Io ho visto che, cioè, con Divine Sense ho visto che c'erano delle... Esatto, però che è sorvegliato da alcuni non morti, di cui non sappiamo cioè, 4 o 5, non so, non mi ricordo. Precisamente 6. Ah, 6 non morti. E sono stati segnati sulla mappa. Non li vedete perché stanno sotto il pelo dell'acqua. Di cui però non sappiamo che non morti siano. Esatto. Prima di questo siamo entrati anche nell'altra stanza, quelle sopra, dove io ho trovato una spada magica, una spada corta magica che emette luce e fa cose. Esatto. E ce l'ha coi cattivi. Sì, una spada magica buona, l'ho convinta. Perché non potrei mai usare al meglio delle sue abilità. No, però... Ha convinto la spada magica buona, che tutto sommato in questo mondo difficilmente gli può andare meglio. Che è una spada magica che c'è intensa, 15 piedi, più luce fioca, 15 piedi, è legale buona, e in più posso lanciare mantello del crociato. Scusa, tu stai usando una spada legale buona? Esatto. Che c'è? Sono tutte buone le spade in sto gioco, anche la tua. Senti, la mia spada che cosa fa? Che io non ho ben... cioè non l'ho neanche segnata. La tua è sostanzialmente una spada laser. Cioè emette una lama di luce che fa danni radianti. Ah, ma è più... mi sa che è più dura. Light. Io te l'avevo, mi ricordo che te l'avevo descritta. Sì. Vicious 3. Ah no no no, l'ho visto, l'ho scritto a mano perché magari. Perché Angela mi aveva rubato il tablet, quindi avevo scritto è da una parte. Grazie. È trovata? Ok. Ricordati che Thunder. Thunder. Che la sua luce è luce solare e che ha la proprietà finesse. Sì, sì. Più di così. Ed è una spada corta, giusto? Lunga. È una spada lunga. Ok. Non mi ricordo più cosa dovevo dire. Ah sì, per attivarsi e per spegnersi richiede un'azione bonus. Però è limitato, giusto? Finché non la rispegni rimane accesa. Sì, ok, cioè nel senso non devi... Sì, sì, lo puoi fare quante okay. volte vuoi. Bene. Detto questo... Avete appena quindi trovato un nuovo peloso amico. E siete in procinto... Ah no, non è. No, un altro peloso amico. E siete in procinto di recuperare ciò che vi è stato mal tolto. Io vi ricordo che Garrosh è dalla sessione scorsa che vi fa fretta, che stiamo perdendo tempo con la gentaglia. Ma i personaggi di Shio poi in ogni campagna vengono stati ignorati. Certo, sì. Anche bene. Perché quando vengono ascoltati si fanno, ci sono idee stupide come far ricrescere le mani all'unica persona. Beh, alla fine di Ambra, esatto. Andiamo. Camminate sulla passerella di fango che ormai ha già fatto scattare le trappole che c'erano e che altrimenti vi avrebbero condotto trasportato nelle celle sì. che avete esplorato. Sì. E vi affacciate sopra questa grande stanza, anch'essa completamente allagata, e qua e là vedete affiorare dal pelo dell'acqua degli oggetti estremamente macabri. C'è una vergine di ferro, una ruota, una grande quantità di catene che pende dal soffitto. La sala giochi. Esatto. Un cabinato di Metal Slug, ah, no. E, alla vostra destra, quindi verso nord, vedete che c'è praticamente una specie di terrazzo che dà su questa stanza, e dal quale si intravedono due sontuosi troni o comunque dei posti a sedere per gente importante, di modo che potessero assistere come ad uno spettacolo a quello che succedeva qui sotto. Okay. Mentre gli altri fanno le cose, io mi prenderò 10 minuti per fare un detect magic per essere sicuro che non ci sia nient'altro. Avevate consegnato delle cose magiche? No, io tutte le cose che avete consegnato c'era qualcosa di magico. Però credo che Vezza abbia sentito qualcosa di sacro. Di sacro, quindi? Boh, a parte... Avrà sentito qualcosa oltre ai non morti dentro quella stanza. Davvero? Curioso. Forse perché aveva dato qualcosa di sacro insieme... O è stato Vezza... buttato lì anche il suo vecchio simbolo sacro, non so, cioè. forse aveva sentito la spada, la spada che ho preso io, può essere, non so, può essere, non mi ricordo, vabbè, lo scopriremo. Bene, suppongo che Vardistran appunto vi abbia avvisato di aver percepito la presenza di non morti in questa stanza. Sì. E quindi cosa decidete di fare? Il problema è che sono sotto l'acqua, giusto? Sì. E in teoria quanto si riesce a capire nella prossima stanza se l'acqua è più profonda e meno profonda, quanto è profonda? Lo dico subito. E se fai una passerella in tutta l'altra stanza centrale, Marco? Il problema è che io mi sono preso 10 minuti per fare il mio rituale, ignorando quello che fate voi. Pronto? Dobbiamo aspettare 10 minuti. Fate altre cose. È allo stesso livello del corridoio in cui siete voi. Ma secondo me mi arriva tipo qua. Vero? Secondo me, Marco, se ti prendiamo e ti buttiamo dentro l'acqua della stanza, magari cioè, non ci ignori più. Quindi tipo i nani devono stare in punta di piedi, vero? Ma tre piedi dovrebbero essere tipo se si riesce a vedere tante robe, ci ho provato meno di un metro a convertire cosa? Piedi in metri. La webcam è troppo scarsa da regalargliene una figa. Tipo da un sensore medio formato, 100 megapixel, una roba del genere. Così. Cioè tipo spendere 4.000 euro per riuscire a vedere lo schermo specchiato. Il livello dell'acqua è profondo 91 centimetri. Non ho capito cosa stavate dicendo di sto schermo. Neanche io. Spiare lo schermo di casa. Guarda WhatsApp. Da qua dietro. Ah, che si vede quello che vedo io. Sì, sì. Ma mi sa che quello che vede lui è quello che vediamo. Sì, esatto. Puoi avvicinare lo specchio. Un po' difficile. O il monitor. Vabbè, non è tanto. Cioè, mi arriva tipo a 92 centimetri, esatto. In realtà anche io sotto la vita potrebbe arrivarti per combattere quello. Considera che io cammino sulle pareti, quindi posso aiutarmi agilmente contro oggetti o altro. Cioè, il problema è che qui sotto ci sono le nostre armi. Quindi posso lanciare il nano? No, io e te, Vezzi, le abbiamo le nostre armi. Puoi lanciare il nano? Sì. Io ho la mia arma, credo che di avere l'armatura però lì. Ah, credo. Sì. Ah, se non l'hai. Se l'hai consegnata. Dubito che. Quindi tutta la che Martin possa portarmi l'armatura. Allora è lì. Cioè, ha senso dire di sì. Cioè, magari gli ho dato la spada e lo spadone. E l'armatura, se non potevo averla. Sì. Precedenti volte che hai dato oggetti magici a Strand. Non ho capito. Ricordandoti le altre volte che avevi dato oggetti magici a Strand. Chissà che fine hanno fatto gli altri oggetti magici. Magari sono tutti lì. Magari ci si masturba. Lo sapremo fra 10 minuti. Esatto. Vabbè, giochiamo a carte mentre aspettiamo. Finisce l'incantesimo della terra che ha fatto Marco? No, quella è terra che è stata spostata. L'incantesimo sposta la terra una volta che l'ha spostata, la rimane lì. Fai conto che il Detect Magic l'ha fatto mentre tu parlavi. Non abbiamo accio armi tipo. E non posso prenderle con la mia mano magica. Tu potresti diventare invisibile. Sì, potresti rasbellare l'acqua con la mano magica finché non brecchi qualcosa. Sì. Allora, vabbè, tipo intanto che come entriamo nella stanza, visto che sappiamo che ci sono 6 amici? Il discorso è per me sono i 90 centimetri il problema. Allora, potrei dire al lupo di bene, no, se lui fa una passerella entro caricando, cioè correndo, non è più un problema. Se lui non riesce a fare passerella, darci una mano in quel senso, la vedo grigia. Vedo grigia. Cioè, una cosa figa potrebbe essere che lui faccia una passerella per farci arrivare alla terrazza Ma la terrazza è rialzata, non so se c'è così tanta terra. In realtà, fare... più che i non morti, quello che temo io sono le trappole. In realtà, se facessi una cosa centrale, che... una piattaforma centrale, sarebbe top. Poi basta. Noi combattiamo da lì, sì. Tipo schiena a schiena, circondati da loro. Ma io dicevo raggiungere la terrazza per avere una posizione sopraelevata e all'asciutto. Comunque, Marco, non devono veramente passare 10 minuti, eh? Cioè, nel senso, non devono passare anche nella realtà. Ma sono già passati nella realtà, bisogna vedere. Yeah. Allora, hai completato il rituale. Il tempo di gioco. Vedo niente. Potevi farlo nella realtà, il rituale. Hai completato il rituale. Congratulazioni. Vedo nessuna aura magica fuori dalle spade dei miei compagni. Cosa vedono i tuoi occhi da Bosi? Beh, io ho ancora la pietra con me. Ma tra l'altro è buio, è dentro un po' illuminato. Com'è? In teoria avete con voi sia la luce delle due spade luminose, almeno una, ammesso che siano attive entrambe. Vuoi anche vedere quante robe magiche ha nello zaino il nostro amichetto Salla? Vabbè, quello dipende da dove dirige il Detect Tante. Magic. Esatto. Nella sala non ci sono fonti di magia. E anche nelle celle no, non vedo... Cioè, siamo stati. Quindi vai a perlustrare anche dietro. Dove nelle, sì, do un'occhiata per essere sicuro di non essermi perso niente. Torno subito, ragazzi. Sopra ci sono i troni per la... giusto per così gli spalti. Per chi assisteva. Per assistere, direi. Quant'è alta la terrazza? Adesso te lo dico. Ci potrei arrivare, forse. Ah, perché se lui fa una passerella e tutti riusciamo a raggiungere la terrazza, abbiamo una posizione sopraelevata. Sì, ma... il balcone si innalza di 7 piedi sulla superficie dell'acqua. Quindi alto 10 in totale. Sì, quindi ma non 3 metri. Faccia niente. Quindi cioè, Garros potrebbe fare un salto, no? Ed arrivarci. No, sì, no, il discorso deve essere attirare loro su e combattere all'asciutto. Ma loro stanno lì a proteggere le armi, secondo me. Dici? Sì. Quindi l'unica è buttarci dentro. Però ma sì, Garros, tu quanto salti? Se le armi sono lì dentro, ma presumibilmente sì. Io cammino sulle pareti, io riesco ad andarci su volendo. Il discorso è attraversare l'acqua. Che lo, non, oh, sono in, no, quello che a me... quello che a me fa un po' paura è che ci siano le trappole. Vabbè, quelle le possiamo trovare con la mia bacchetta. Ottimo. Scusa, bacchetta, ma... aspetta, ma trova le porte, no, segrete, le stanze segrete. Scusa, ma avevo qualcosa per le trappole io, no? Sfortuna, non puoi fare un'altra passerella. Yeah, non possiamo vedere con le mie sei tizi. Percezione. Marco, non riesci a fare un'altra passerella e magari uno spiazzo un po' al centro della stanza? Non so quanto terra muove. Un open space? Dipende, c'è terra anche in quest'altra stanza? No, in quest'altra stanza inizia ad esserci il pavimento di piastrelle di pietra. Prendi la terra laterale, che non ci serve più. Ma per appicciare che con mano magica non riesco a beccare niente. Che fluttua nell'aria, quindi non va sott'acqua a mano magica. Come si chiama il tuo incantesimo, adesso, Marco? Adesso nell'acqua non c'è aria. Ah, mold earth. Avevi saltato un po' di sessioni, non ti ricordavi più come funzionava, Quindi tutti i pesci mi vuoi dire che muoiono affogati? È questo che mi stai dicendo, Katta? Quello è ossigeno disciolto nell'acqua. Non è aria. Non è aria. Dai, rega, andiamo. Vabbè, Pat che mi fa un metamorfo. Cosa? Esatto. Dai, 3 su uno e 3 sull'altro, sui lati. Bene, come vi dividete? A pugni. No, abbiamo le armi, eh. No, ma scherzi a parte, io siamo riesco a combattere che intralcio. Tu hai svantaggio gli attacchi. Quindi io posso fare... corpo. Come? Hai svantaggio. Esatto. Vabbè, e gli umani faccio attacco in cauto e tiro normale. Gli umani siamo solo più lenti, giusto? Siete, vi muovete sì della metà. Ma possiamo attaccare, cioè non abbiamo svantaggio al colpire. No, è semplicemente terreno accidentato. Allora, io l'unica cosa è che adesso avrò l'armatura, quindi avrò un'armatura ancora più cessa del normale. Anzi, all'attacco tra il femore e l'anca, forse un po' più in basso ci arriva l'anca. Ok, dipende da quanto uno è alto. Però... Vabbè, comunque è terreno accidentato. Come dividete? Il paradosso è che io mi muovo normale, perché ignoro il terreno accidentato, esatto. Ma non riesco ad attaccare, che ironia. Allora. Ma se ti muovi invece sui muri, sì, però non raggiungo loro. Siamo 5. Non puoi usare di lanciare i troni. Arrivo al nemico se continuo a correre intorno sul muro. Che? Se sei un criceto, no, oppure stiamo tutti su uno. Ma va non bene, possiamo dove tipo aspettarli lì. Non possiamo attirarli alla soglia. Ma Sceo, stiamo già aspettando. Tipo, abbiamo sperato tutto il rituale di Marco. No, fare solo un passo dentro e rimanere uniti. Catta. Senza dividere. Guardi, Atanas. L'incantesimo che lancio con la spada ha delle cariche o è a volontà? Te lo dico. Dicevo solo fare un passo dentro e rimanere in gruppo. Ma o andiamo tutti su uno oppure ci dividiamo, o mandiamo Salla invisibile da solo, ma io attaccherei, cioè se non abbiamo idee particolari andiamo, sappiamo che ci sono sti sei e buono. Oddio, se Salla non si propone di fare una perlustrazione, no, io dividerei su due lati, perché magari tipo rischi anche magari un gruppo becca una trappola, magari l'altro no. Allora, c'è modo, Salla, tu potresti anticiparci sott'acqua. Eventuali trappole, riesci a vederle? La spada si ricarica ad ogni alba. Quindi ha una carica che si ricarica ogni alba. Sì. Ok, allora lo possiamo tengo. Mandare a morire il lupetto di Giulio. Lui l'abbiamo già liberato, lui mi sa. Le abbiamo già detto. Sì, è con noi. Per ora è lì con voi. Ah, no, è con noi. Anche perché si fida da solo adesso. Io non vedo le trappole di voi. L'unica cosa è che se sono sulla destrezza le... Ah, okay. Ma tu, Salla, sei uomo o halfling? Qui non mi ricordo. Siamo prima, ci mettiamo nella vita vera o nel gioco? Gioco. È un essere umano. Ah, allora, top. Nel gioco sono un essere umano. Vabbè, allora andiamo, dai. Allora, cioè, siamo anche qui all'ingresso a aspettare che ci attacchino facendoci vedere. Cioè. D'accordo, chi entra nella stanza? Dai, io vado sul lato, vado a sinistra. Sfodero la spada che inizia a brillare e avanzo. Quindi verso sud. Sud. Io sfodero il mio martellone. E caccio un urlo devastante. No, vado però per andare su uno dei quelli. Sì, anch'io faccio. Se so dov'è lo attacco. C'è la luce, quindi in realtà ci vedono già. Sì. Allora, sono Garro, Shatanas, Race. Quindi seguite il pro de Vardistran nella mischia. Mettiamo qua Race, fortuna un po' più indietro. Tu hai picciato la spada. Lupo, tutti da una parte. L'uomo lupo è con noi. Esatto, è sotto posto di Giulio, quindi lo obblighi a combattere. Nella stanza cosa... Cioè, adesso perché è super illuminata? Sì, ma adesso che è super illuminata, vedete appunto... in realtà non vedete molto di più, perché comunque sotto il pelo dell'acqua... Cioè, l'acqua non è limpida e cristallina, è melmosa e schifosa. Però vedete... Tu ti rendi invisibile, vai sott'acqua che... e cerchi il tappo dello scarico. Sì, scio. Vedete che dal pelo dell'acqua cominciano ad affiorare membra decomposte di gente che una volta era viva e adesso non lo è più. Vi trovate di fronte. Che brutto, vabbè. Sei zombie. Perché non si rimpicciolisce? Sei zombie giganti. Sei zombie giganti. Un quadretto sono 5 piedi, no? La sigla era d'obbligo, cazzo. No. Sono giganti questi qua o sono giganti davvero? Sono giganti perché non riesco a rimpicciolirli. Ah, ok, posto. Perché la mappa non è in scala con i quadretti. Però l'altro, se questo si rimpiccioliva, quello è... no, come non detto. Va bene. Tirate iniziativa. Sì. Ah, quindi io non posso combattere con due armi con la spada lunga o sì? Classico. Quindi 3. Sono zombie piccoli o sono zombie giganti? Grande, grazie. Sono zombie normali. 17. C'è la vantaggio iniziativa? Sì, questo non cambia. 17. 21. 21. È triste cominciare per primo. Sì, tu l'hai detto in maniera tristissima. 8. Sì, perché devo comunque ritardare. Sfortuna. No, Siri, 8. Porca puttana, non ti sei attivata per 2 ore. E adesso ti attivi perché dico sì. Atanas. Ma in realtà tu 17. Se fai il primo attacco... Ah no, perché non è Assassinate. No. E tra l'altro con la mia luce ci hanno visti tutti tipo... da 2 ore e mezza. Ma poi sei lì che Rega, cosa facciamo? No, beh, andiamola, no, vai tu. Se sei comunque il primo, dovresti comunque poter fare furtivo, no? Se agisci prima di loro, sì. Per quale motivo? Non penso. No, giusto, non con Catamassa è difficile. È vero. Che domande ti fai? Vabbè, non penso da regolamento, non so. Va bene. Loro sapevano già dalla one shot questi zombie che ci avevano visto dalla one shot, avevo... mi ricordo la sprovvista, esatto, sono lì che vi aspettano dall'inizio della campagna. Ottimo. E voilà, il primo è Race. Passo e chiudo. Quel coso che ho dietro cos'è? Il vostro amico lupo mannaro. Ah, ma gli hai rimpicciolito alla fine. Ah, oi? Forse l'ha fatto sfortuno. Sì, l'ho fatto io, l'ho fatto io. Come hai fatto? Però è sparito il lupo. Ah no, tenendo premuto alt. Ecco come avevo fatto detto. Allora io un po' più grande il lupo, dai, un po' più virile. E ritardo l'azione. Bravo. Appena un mio compagno attacca un bravo, uno stronzo, io lo attacco. Ah no, non posso, okay, perché posso fare solo un'azione bonus, giusto? Puoi fare... posso fare solo un'azione senza il movimento, esatto, ma nel tuo turno è comunque sì, dovresti usarlo adesso il tuo movimento. Mettiti tipo lì di fianco. Allora pronto, attacco. Vabbè, tipo, no, tipo attacco quello. Lo attacca. Mi avvicino a questo qua sotto. Ops, mi sono compenetrato. Mi avvicino a quello lì sotto e appena qualcuno attacca, lo attacco anch'io. Ah, puoi attaccarlo anche adesso. Atanas è di fianco a lui. Bardi strano di fianco a lui. Ah, e vale il furtivo. Sì, sei un amico. È già complicato. Dai, dai. Già. Allora, penso io a te. Tiro per colpire 24. Colpito. E è un non morto? Sì. È uno zombie. Quindi no, sta solo 8, male. 11. È un cadavere ancora vivo, giusto? 24, esatto. 29 danni. È carne morta. Non ancora. Che ironia. Quanti danni gli ha fatto? 29, giusto? E non l'ha sassato. Ah no, esatto. aspetta, ho il più 2 e ho il più 2, 31. Ecco, allora sì. Allora. Ma la luce ce l'abbiamo, è tornata. Sì. Sì. Nel senso che la mia spada fa luce. Sì. No. Esatto, avete quella di luce. E... lo zombie viene... dezombificato e scompare in un cumulo di cenere. Madonna, e di, io faccio che la forza pelle sia con te, con la spada, esatto, laser in mano. Ok, e questo era lui. Dopo di Race avviene Atanas. Attacco quello dopo. Allora, con la spada magica faccio un 18-17 di dado, quindi immagino che lo colpisco, credo di avere un più 11, non mi ricordo. Sì, con... direi. Hanno classe armatura 8, cioè se non fai uno lo colpisci. Ok, con l'altra arma, che boh, immagino un coltello, okay, di avercelo, faccio 4 più qualcosa. 4, ok, più 11. Sono danni taglienti. Sono tutti danni taglienti. Non lo so, sono taglienti quelli da spada corta. Direi di sì. Te lo dico. Sì. Tra l'altro non di 6. Short sword piercing. Sì. Piercing, allora no, non sono taglienti. Perforanti. Perforanti. E anche un coltello. Credo. Però aspetta, che ha finesse e light. No, non c'entra niente. Finesse che è presa. Quindi no, faccio con la spada faccio per il due armi. Sì. Oh, grande. 11, la mia spada 12, sulla finesse mi sa. 13 più 14, 27 con la spada magica e con la seconda arma che immagino essere un, tipo un coltello. Cos'è, un D4? Un coltello? Coltello è dagger? Hai la dagger? Sì. Dagger è un D4 piercing. D4. Sarei 1, ma ho comunque più 7, quindi 8. Ok, per un totale di... Ah, per un totale di 35. Ok, lo smembri nelle sue varie parti che rimangono smembrate. Dopodiché sta a Garrosh. Allora, io mi avvicino e faccio questo e ci mettiamo a fare questa lotta. E... Esatto. Comunque perché... hai scambiato me con Atanas, mi sa, sai? Come al solito. Ovvio. Sì, sì, e allora io, siccome c'è la parete accanto a lui, posso correre sulla parete e attaccarlo caricandolo? Sì, ma così faresti solo un attacco. Parkour! Allora no. Faccio attacco incauto, così tiro senza svantaggio. Tutte e due, secondo me, sono il primo attacco che fai. Ah, tutte e due. Ti ricordi che ci abbiamo guardato l'altra volta? Tutti gli attacchi che subisco hanno vantaggio, ma tutti i miei hanno... Vantaggio. Tutti i tuoi? Sì. Tutti i miei attacchi da mischia. Vabbè, comunque intanto il primo va a segno. Vabbè, 9 danni col primo attacco. Mm-hmm. E anche il secondo colpisce, ho fatto 20 e sono altri 12. Ho fatto il massimo, 12 danni. Quindi 21 solo. No, la userò a due mani. A meno che tu non me l'abbia considerato un caricamento figo, non me l'hai fatto fare. Guarda. Quando vedo che Sheo non abbatte il suo, dico, Garrosh fai schifo. Ma sono il tank. Ti ricordo. Allora, tu gli hai fatto il bullizzo. Dopo hai fatto due attacchi. Sì. Due attacchi hai inflitto. E... ho detto 12 più 9, 21 totale. 21. Okay. Contundenti perché è un martellone. Oh, esatto. Dopo ogni attacco un pezzo dello zombie si stacca. Figo. Il primo pezzo è... Non credo. Ah, quelli che si smembrano, poi devi uccidere un pezzo. Figo per niente, no. È una gamba. Il secondo pezzo è la testa. Decapiti lo zombie. Beh, il fatto che sia arrivato a colpirgli la testa è onorevole, visto che sono alto un metro e niente. A lui è mezzo a mollo nell'acqua, quindi ci arrivavi. E il fatto che ora ti morda con la testa che gli è decapitato invece è ironico. Sì. Ok, questo era Garrosh. Sfortuna. Ma percepisco il pericolo dato dai pezzi che si staccano, cioè so che mi potrebbe mordere con la testa o meno. La testa continua ad essere attiva anche se viene staccata dal corpo. Posso provare a allontanarmi? Non hai abbastanza movimento. Perché... Ah no, no, tu sì, è vero. Per arrivare... no, vabbè, perché era terreno accidentato, ma tu lo ignori, giustamente. Quindi tu hai tutto il movimento che vuoi. Non so, posso provarci? Io devo fare tipo un athletics, perché non ho di opportunità. Andartene via, esatto. Non puoi, hai già usato l'attuazione. Vabbè, dai. Quello è usare l'attuazione per disingaggiare. Vabbè, allora, hai paura di un morso di uno zombie? Esatto, cazzo. No, rimango lì. No, volevo fare una... Non hai visto Army of the Dead? No, ancora non. Io punto a questo qui. Non è vero, è Eldritch Blast. Eldritch Blast. Tira. Ha detto tutti che è carino, cose già viste. Il più basso è 12. No, in realtà, 20. Ecco, cose già viste no. Ah, ok. Sto ascoltando la recensione di Six Underground, lì, come cazzo diciamo. Gran film. Quindi fa, ma io l'ho visto, alla fine è piaciuto. Quando dice che è bello fa cagare, viceversa. No, infatti è un gran film. Ho fatto 27 danni di forza. Ok. Tipo sperimentale. Aspetta, ti è ridotto male, ma ancora in piedi. Che praticamente è la recensione, equivalente alla recensione. Ok, sta a loro. Il primo sguazza nel fango e nella melma e arriva addosso ad Atanas. Lo zombie fa 3 attacchi, uno col suo morso e 2 con le sue zanne, con i suoi artigli. Sti cazzi. Il morso manca, gli artigli fanno 19-21. Che palle. Ti colpisce? Sì, ho 18. Che culo. Prendi 8 danni taglienti. Ma il lupo non combatte. No, sta indietro. Ma come no? Cioè, tipo, Giulio glielo può ordinare. Ah, ma non la fa. È mezzo morto. Ah, sì, tra l'altro. Vabbè, che con gli zombie in effetti potrebbe essere utile. Ma vedi tu. L'altro arriva da Sagarro. È carnivore. Prende solo con il morso. Quanto olio di classe armatura? Secondo me... meno di 22. Ma anche secondo me, però insomma ho tirato alto, quindi gli altri due con gli artigli ti manca, ti fa 3 danni e sì. L'ultimo si avvicina perché gnegno. Ah, rimane la testa, è vero, prova ad attaccarti, ti manca. E questi erano i fortissimi zombie. Vardistran. Oh, hey. Tocca già a te. Mostra la tua possanza a paladino. Ah, vedo Giulio in difficoltà. No, scusa, ma noi non ne avevamo ammazzati 3 di zombie? No, 2. 2, io non l'ho ammazzato. Va bene, dai, vado. Vado su quello di Garrosh, dai. Ok. Puoi finirne uno, che era quasi morto. Proviamo. Sono due. Ma nuovi. Sono due quasi morti, perché l'altro ha beccato la Eldritch Blast. 26 a colpire. Ah, è vero, è vero. Lo manchi. Quanti gradi di successo sono? Oh, 2-1 devo tirare, 2-2, vabbè, non tanto meglio. E 11 danni. Lo secchi. È morto. Faccio il secondo attacco su un altro, allora. Prego. Facciamo questo dado da 20. Che è un po' che non... L'altro, ce n'è un altro che ha subito danni da Marco. 20 a colpire. Quindi puoi finirne un altro. 8, 15 danni. Boh, se posso su quello che ha danni. Sì, ha preso Eldritch Blast, quindi dovrebbe morire. E quello l'ha già ucciso. Allora, quello, ah, che, allora, quello che allora la testa, insomma, quello che ho decapitato io. Sì. Dovrebbe morire, no? Sì, sì. Quindi due. Arrivo io, bam. Esibizionista. Bene, ora dovete solo completare l'opera. Beh, grazie. Facile quando si tira uno in iniziativa ogni volta. Aspetta, vediamo cosa fanno i miei compagni. Strategico in questo caso. Vinto. No, in realtà era proprio da condottiero, tipo, andiamo. Poi tipo, voi andate avanti, sì, io rimango indietro, tipo sul cavallo a guardare l'altro. Ho fatto 30 di tiro per colpire. Lo colpisci. Vabbè, come quando al lavoro il tuo capo ti dice, facciamo questa cosa. 17 Gabo, il mio Gabo hai detto. No, in generale al lavoro quando un capo dice facciamo questa cosa. Sì, sì, mi ricordo. Chiaramente uno fai questa cosa. 32 danni, sì. Sì, sì, capisco, come dire, quando un Gabo dice Gabo, aiuta Gabo. No. Viene. Esatto, se intanto io faccio quello che dovreste fare tutti voi. Cioè, viene eliso dall'esistenza. Garrosh. Cioè, cosa gli hai fatto? Bene. Raga, ma io non faccio danni, io faccio 32 danni. Ma io non ho capito, sti zombie ora si stanno moltiplicando? No, li avete distrutti. Uno, quale? Ah no, ce n'è ancora uno. Ce n'è uno. Sì, ma sì, quello. Avevo capito che se si... Ah, ok, perché quello era ferito, quindi i pezzi andavano in giro a uccidere. Esatto, ma l'hai finito tu. Atanas. Attacco quello rimasto, se ci arrivo. Vediamo subito. Allora sono 5, 10, 20, 30. No, allora non ci arrivo. 5, già vellotto, 15, già vellotto. 20 piedi da te. Già vellotto. Dai, con quella lancia. Non posso lanciare nulla perché l'arco è un salto. Fai un saltino. Dai, con quella lanciare scala. Salta. Tra l'altro faccio notare che noi andiamo a metà del movimento. Così cioè, arrivo da lui, però poi non posso attaccare. No, ma andiamo a metà del movimento noi in realtà. Dai, è bellissimo, lancia sì, io in realtà posso fare un salto più lungo uguale, perché per un bonus che ho come campione. Però non me ne faccio nulla, perché comunque uso l'azione. Ma lei è d'accordo, lancialo. Saltare è un'azione? Sì. Ciao, posso... non so se posso farlo come movimento. Aspetta che guardo. Le nuoti vai più veloce, forse. Oh sì, fai una prova di atletica per vedere se ci arrivi. Aspetta che guardo il Champions Remarkable. Allora... quando faccio un salto in lungo, la distanza che posso percorrere è aumentata del numero di piedi uguale al mio modificatore di forza. Però, quanto è distante lo zombie? 20 piedi. 20. Cioè dipende, c'è anche l'acqua, non so se questa... ha svantaggio. Ok, vabbè. Vediamo normalmente quanto è un salto lungo. Mica non c'è ancora un rapido. Vabbè, fai quello dopo di me nel frattempo, tanto. Quello dopo di te è Garrosh. Vabbè, faccio finta di attaccare. No, scherzo, lo attacco come prima con attacco incauto. Hai detto che hanno 8, quindi 11 lo colpisco e 16 lo colpisco. Passo. Non me la consideri una carica in qualsiasi modo, vero? No. Carica subacquea. Esatto. E 7 più 8, 15 totale dei due attacchi. Ok. Quindi vedi che l'hai colpito due volte, no? Sì. Ok. Questa volta perde un braccio e una gamba. Per una volta che non gioca a LOL, però gli mandi video. Allora. Poi lo perdiamo di nuovo. Ma perché c'entra questo? Merda, devo ucciderti qualcun altro, cazzo. Ah, ci pensa Atanas. Intanto vai sfortuna. Tirami sto Aldrich Blast. Sì, okay, io ho fatto tutte e due colpiscono. Faccio 6, 4, 10 e 10 più 14, quindi 24 danni. Yes. Viene Eliso dalla forza dell'energia arcana, senza anche i miei danni non moriva, però dillo. Mi sembra che io non faccio niente. Io mi giro, vedi come si fa Garrosh, impara la sfortuna. Sì. Io li indebolisco, arrivano gli altri, morto. Tanto io sono all'asciutto, tutti voi siete coperti di liquami misti con pezzi di zombie. Vabbè, è il mio bagno settimanale. Sì, tra l'altro gli odori che ci saranno qua dentro. Esatto. E uso un minor illusion per... No, un prestidigitation per sentire un profumo e togliermi le zaffate di tanfo. Quanto sei raffinato. Sono un bardo. Ok. Vi mettete a cercare nell'acqua e adesso vi dico quanto ci si mette per trovare. Vabbè, ma dico al lupo mannaro che magari è più bravo a cercare le cose, dico cerca le nostre robe. Ok, non è particolarmente migliore di voi in questa particolare situazione. Se potesse usare il suo olfatto magari sì, ma in questo caso quindi proprio no. Io non vedo nessuna fonte di magico. Non in questa stanza. Tra l'altro, scusa, se qui c'è l'acqua, ci sarà un modo per farla scolare? L'ho detto di cercare il tappo, avete riso? Mentre cercano le armi, naturale. Mentre ma cercano le armi, io vado all'asciutto sulla terrazza. Cut. Ok. Io posso smuovere leggermente terra e sabbia. Fine. Anzi, mi godo il meritato riposo seduto su uno dei due troni mentre li aspetto. Ok, meritato, certo. Tanto sono quello che ha subito più danni, credo, non lo so, forse l'unico, forse anche l'unico che ha subito danni. Esatto, vedi, sono il tank, chiaro, no? Se uccido gli avversari come faccio a far vedere che sono il tank, eh? Devo insegnarti tu. Quindi mentre loro cercano, anche nelle altre stanze non rilevo nulla di magico. Quali sono le altre stanze? Cerciandomi alla prigione qua e alla prigione qua. Le cercate prima, Marco? Le ho cercate col gufo, non con qualcosa che percepisce il magico. Hai fatto percepire il magico prima. Davvero? Abbiamo aspettato 10 minuti che faccio questo cazzo che ti vanno. Eh sì, ma non pensavo avessi guardato a quel punto. A un certo punto hai detto faccio un controllo nelle stanze. L'hai fatto. Con tanto di rega arrivo subito. Ok. Ogni personaggio che spende 10 minuti cercando nell'acqua melmosa della stanza della tortura può provare una prova di perception e troverà un numero di pezzi di equipaggiamento che determinerò. Perception, non investigation. Cioè, non possiamo fare un rastrellamento, non c'è qualcosa per rastrellare questa, tutto. Questa prova rappresenta il fatto che facciate questa attività. Io raggiungo Garrosh, uso un prestigitation per pulirmi. Fermi, ho l'idea. Cominciamo a bere. Prima o poi finirà. Io faccio 17 in perception. Ok. Trovi 3 pezzi di equipaggiamento a vostra scelta. 20 naturale. Cioè, ma 3 pezzi? In che senso? Voci, nel senso... sono un'armatura, una spada. Anche. Sì. Ritrovo la mia armatura e le mie 2 spade, che è una cosa che avevo consegnato. Egoista! Anche tu, Salla, ne trovi 3. Ma io ho tutta la mia roba lì dentro, mi sono provato a dei 3 equipaggiamenti. Ah no, adesso le armi mi sono buttate lì. Lo hai deciso tu? No, ma nel senso, all'ingresso lo zaino non è che me lo perquisivano. Cioè sì, ma se trovavano delle armi, non se trovavano un flauto di Electrum. Quelle cose ce le hai ancora. Ok, allora trovo le cazzatine che ho rubato ai Martinkov, che sono le loro armi. La balestra del figlio di Martinkov. E nessuno che caga l'armatura di Martinkov. Esatto. Ma pesa troppo l'armatura di Varistran. Se la ritroverà Varistran l'armatura di Varistran. Ah, è dato, allora nel frattempo vado a pisciare. A dopo. No, ci sono. Anche la mia balestra ha una mano. Ero un attimo sdraghetti. Mi sono anche tardi, allora aspetto. Cioè, vado via io, vanno via tutti. Ah, beh, allora. Vabbè, ciao. Paolo. Vabbè. Cazzo, è pausa. Time out. Ma quindi niente, decidiamo noi. Vabbè, 3 pezzi, tipo un'armatura e un pezzo. Non ho capito bene, scusate. Sì, cosa. Sì. È un'armatura e un pezzo. L'ho tipo detto che ho ritrovato l'armatura e le mie 2 spade, che è sostanzialmente tutto quello che ho dato. Io se vuoi, io ho detto solo 2 cose, quindi se vuoi posso prendere la tua armatura. Sarei gentile, perché io non credo di passarlo. Basta poi se stare lì. Considera che io ho un più 1, è solo perché ho fatto 20 naturale. Vabbè. Sì, è un più 0. Ho fatto 17. Bravi. Però sì, va bene. Io sei tornato troppo. Sei tornato troppo presto. So più che fare. Parliamo di queste miniere. Che fare. Adesso cosa dobbiamo fare poi, tra l'altro? Andare nella torre più alta, giusto? Sì. Sì, sì, ma ce ne sono una tantina di stanze prima, da vedere. No, per carità, cerchiamo di evitare. Beh, tanto io mi avventuro, in quelle a nord, dove sono. Assolutamente. Vai. Ti ricordo che c'hai una palla di pelo ricoperta di fanghiglia, liquami e interiore di zombie. Guarda come si mangia. La terza cosa che trovo catta è l'armatura di Vez. Guardi, strano, il Pro The Racer ritrova la tua perduta armatura. Va bene, dobbiamo trovare qualcos'altro. Che cazzo è sta roba? E la ributta. Ma non te la ridà. Dobbiamo trovare anche qualcos'altro. Tipo mancano tipo tutte le mie armi. Ah, cacchio, perché non hai... vabbè, grazie. Dai, prova a fargli un perception. Perché non mi frega niente, in realtà, perché ho tipo ho le armi dei Marking. 5. No, hai bisogno di armi. Non hai trovi niente. Non ho bisogno di armi, ho solo tutte le mie altre armi che sono tantissime. Chi è che deve... Le frecce le ho lasciate ai Marking, tanto non me ne faccio nulla dentro il castello. Chi è che deve... Garrosh, ma Garrosh non sta cercando. Sfortuna? No, io sto lontano da lì qua. Se manifestate il bisogno di aiuto, posso provare ad aiutare. Aiutaci, Garrosh. Redditi utile. State facendo benissimo, continuate così. Aiutateci, ragazzi, per favore. Chiedono aiuto, lo faccio. Tipico dei caotici malvagi. Vabbè, 17, esatto. Alla fine conviene anche a me. E loro hanno tre pezzi di equipaggiamento. Provi 5 pezzi di equipaggiamento. 5 pezzi. Come 5? Ah, ah. Io ne ho presi 3. Abbiamo fatto 17 uguale. Ma il dado ha deciso che lui è stato più fortunato. Visto come si fa, ma sono più vicino casuale. All'obiettivo io sono più vicino all'obiettivo. Con 5 esatto. Trovi tutte le mie armi giuste e giuste. Ecco, ritrovo la sua roba. Ah, perché tu proprio lo respiri quella bella acqua. Ma sì, okay, ora ho tutte le mie inutili armi. Arci non aveva armatura. Grazie. Tu non hai armature. Sfortuna non ha armatura, giusto? No, non ho neanche più il mio stocco. Potevi cercare il tuo stocco? No, la fanghiglia non è. Potresti farlo usando la terra per scavando. No, non c'è terra lì. Non c'è terra. Va bene, andiamo. Io usi quella al corridoio, puoi spostare a volontà. Siamo già passati da questa cosa, Giulio. Vabbè, lo stocco glielo darà Salla, da 12 di arma, se ha bisogno di un'arma. No, cazzi vostri, il mio stocco l'argento io maledetto. Io ero curioso di sbirciare questa stanza qua. Ah, no, giusto, io ho ancora la spada argentata, se avevo anche. La spada corta argentata. Riga. Allora, da qualche parte. Va bene, ma Fabio ha commentato. Gruppo non può fare. Ciao, Sceo, voglio gente sveglia, Sala non guardare il cellulare. Franco, non ti si vede, sei coperto dai sottotitoli. Chi è il sottotitoli? Chi è il terzo che vi sta guardando? Non lo si so, palese nei commenti. Il nostro terzo telespettatore. Oggi c'è l'audience a palla. E prima che voi vi muoviate in altre, scusa. Il terzo sarà un pakistano di qualche maggiore. Bravo. Prima che voi vi muoviate, il vostro amico peloso. Prima che voi vi muoviate in oggi pioveva, non si lavorava. Un attimo, sarà un pakistano di Portomone. Mi è partita la diretta. Ecco chi è, è Katta quello che ci guarda. Adesso sì, prima no. Oggi pioveva, non lavorava. La Maddalena. Ok, il vostro amico peloso comincia a ringhiare verso oggi pioveva, la scala. I pakistani hanno tempo libero, oggi non si lavora. No, ma non pioveva a Porto. Non ha piovuto a Oporto. A Oporto non ha piovuto. A Gabo Porto non ha piovuto. Perché mi hai spostato, Katta? Perché mi hai spostato? Ho detto che volevo andare su a vedere. Perché quello è il punto in cui hai trovato le cose che stavi cercando. E nel momento in cui le trovi, il vostro amico peloso comincia a indietreggiare, ringhiando verso questa direzione. Dalla tromba delle scale scendono i 6 white che fanno avanti e indietro portando le cose e le gettandole nella quelli che vi hanno preso la roba quando siete arrivati. Ah, sono già ostili, cioè ci hanno già visto o abbiamo tempo di nasconderci? Beh, possiamo fare anche noi, vorrebbe tipo dire sicuramente abbassare un po' la testa. Sì, esatto, andiamo dentro la abbassiamoci. No, davvero, se non ci ha visto possiamo tendergli un agguato. No, teniamo il fiato. Va bene, fatemi una prova di stealth. Aspetta, come mai siamo qui? No, tanto vado, il fiato, scusa, è un direi che faccio un athletics. Per quello non ti serve un athletics per stare un po' in apnea. Ti serve uno stealth per... Oddio, fallo tu. io posso invece andare a nascondermi dietro i troni. Anch'io volevo nascondermi dietro i troni. Raga, ma i troni sono tipo 20 km d'altezza, va bene Sceo che salta su. Ma io cammino sulle pareti. È sfortuna? Usano un acrobatics. Sono 3 metri. Tu ci puoi chiaramente arrivare, ma il fatto che tu, da dove sei lì, che hai appena finito di cercare la roba nell'acqua, ti muovi da là, ma quindi abbiamo chiaramente l'acqua che sposti. La roba. Quindi l'armatura non ce la siamo rimessa, abbiamo giusto trovata. Ma sì. Faccio rumore, ma dici. Questi qua sono come quelli che abbiamo affrontato, no? Sono un'altra cosa. No, ho riciclato la stessa miniatura, sono quelli che vi hanno preso la roba quando che siete sono molto entrati. Più forti però. Vabbè, sono allora dei white anch'io. Ma io non ho cercato, non posso cercare di salire mentre loro cercavano tutte le armi. Riconosco che fai troppo rumore, faccio uno stand. Casino, rega, aspetta. Non ho capito, quindi cosa facciamo? Vogliamo provare a evitarli oppure cosa? Vabbè, evitarli è impossibile, stanno venendo nella nostra direzione, quindi Ma l'idea è di se nasconderci andavamo per farglieli sott'acqua, qua. forse no. Ma stanno venendo qui loro. Sì, ma perché avranno delle armi da buttare, credo, Proviamo a nasconderci, se poi ci beccano, va bene, siamo nascosti, tendiamo una guardia, sennò magari vanno via. dai, Vediamo. facciamo sto stealth, allora. Ognuno di voi deciderà nell'ordine che ho qua. Race, cosa fai? Vabbè, allora io mi trovano lì ancora. Ho fatto 7 di dado, quindi 20. Stealth. Sì. Atanas. Nascondiamoci dietro la Ah, vergine di ferro. ovviamente spengo la spada. Perché Ok. sennò Proprio per c'è restarci cioè, la dietro giri sono e dall'es spiedi. clic proprio il pulsante. Io È uno faccio no, zippo, chiudo 15. il coperchietto. 15, sì, vabbè, metto la spada dentro un fodero. Ok, Garrosh. Faccio stealth anch'io. 18 di dado, più 6, 24. Spannam. Mecco io. Sfortuna. Oh, non ci sono più fonti luminosi, quindi. Beh, in Non realtà vedo. potrei avere anche vantaggio a nascondermi in un'acqua di 90 centimetri, però. Quindi io non vedo più niente, non so cosa sta succedendo. Vabbè, l'hai visto, Senti. ma quelle cose cadono contemporaneamente, cioè non rompere il cazzo. Senti che comunque È c'è arrivato no, qualcuno. aspetta, fagli fare, c'è qualcuno. ci sono diverse cose che sguazzando nell'acqua stanno arrivando in questa direzione. Quindi io non sono riuscito a È salire qua sopra mentre arrivato loro la cercavano modalità le fratello maggiore. Non rompere il cazzo. Arrivano che non siete ancora saliti. Sì, ma mentre Con loro l'idea avrebbe cercavano le detto mezzo, a armature me per non 10 sembra una minuti, buona cosa idea. ho Con fatto? lui non rompere il cazzo. È arrivato Alessandro Muschi. Ecco chi era il Ciao, terzo. Ale. Orto da coltivare, come si Se... coltiva il pomodoro. Beh, mentre loro cercavano, tu di fatto li hai guardati mentre cercavano, non hai fatto altre cose. Ok, allora cerco Molto di chiara, quindi. nascondermi, possibilmente non sott'acqua. Ok. Prego. 7. Oh yeah. Vardistra. Ci riprovo. Oh no, aspetta, 9 perché ho un più 7, 9. Li attacco. Ci riprovo. Pensavo di avere un più 5, un più 7. Non posso provare ad andare sott'acqua e quindi a fare un athletics per trattenere il fiato. Cioè, sott'acqua in teoria sono già tipo nascosto. Se riesco a trattenere il fiato, Certo, ma un conto è, diciamo, andare sott'acqua, come dire, se sono in una vasca da bagno cioè, e tu mi immergo, tu stai quindi mi stai muovo dicendo il che pelo da dell'acqua. master tu stai andando contro quello che è lo spirito della versione 5.0. Dove io, Sì. come fare una cosa, posso spiegartela e Sì, utilizzare un'altra. No, no, va bene. Catta potrebbe E quindi? vederla così, ad un perception potrebbe essere più facile da trovare rispetto agli altri, però sarà più tempo sott'acqua di noi. Va Io bene, uso adesso ti ho Athletics aiutato. per No, vabbè, arrampicarmi e in stare più questo da sotto. caso ci Poi stava, cioè trattenere il fiato è un athletics, sicuro. va Può bene, starci, sì. ma a te interessa più che altro farlo in modo che non riveli la tua posizione, quindi senza fare schizzi, senza muovere troppa acqua, quindi muovendoti in maniera delicata. Se poi hai un'altra idea su come farlo, No, ti esorto a esporla. nel senso, per come la vedo io, esistono due metodi per nascondersi. Uno, andare dietro la parete e lì è uno stealth, oppure andare sott'acqua e quello è un athletics. No, il discorso che, cioè, trattenere il respiro ce l'ho da per scontato, Sì, dici, diciamo, vabbè, ma tiro se per vedono uno. il movimento Aspetta, dell'acqua potrebbe essere aspetta. anche uno zombie, a parte che adesso Sì, però. piano piano, cioè, allora, dipende dal momento della scena, però se ho capito siamo nello stesso momento. Prima erano attaccati, poi sono diventati staccati, poi ora sono attaccati. Comunque, vabbè, faccio sto stealth, tanto Sono mai sappiamo. stati vicini, arrivano. No, beh, ci Ora quello arrivano che dal voglio fondo alle capire spiale. è, io ho avuto tempo di mettermi l'armatura oppure no? No, Ok, quindi no. non ho svantaggio però di stealth. Esatto. Ah. E quindi ti so tirare il mio tiro basso e basta. Olè, un bel 1 e siamo a posto, vai. Lo stealth Sono lì adesso dobbiamo davanti. fare rumore. Stealth per il rumore, non tanto per il non farti Ma tanto vedere, io in questo stealth caso. faccio comunque sempre cagare. Comunque ho fatto uno, per cui non c'è dubbio. C'è il discorso che tu dicevi del trattenere il fiato, ce lo dà per scontato. Cioè, noi riusciremo a No, tenere beh, il io fiato sono lì senza davanti a sto problemi. punto. Ho fatto uno. Anzi, forse mi sono Sei anche qua tipo dietro. buttato addosso a loro, non lo so. No, hai fatto un tuffa bomba per andare sott'acqua. Ok, siete sott'acqua e i tizi cominciano, sentono degli schizzi, degli splotch splotch, e vedete che hanno delle cose con loro che stanno portando dal piano di sopra e cominciano a guardarsi intorno. Ma erano nel corridoio, una palla di fuoco nel corridoio? Nel senso che io non ho capito, cioè vabbè, non voglio rallentare il gioco, però a quel punto non diventava una cosa di squadra, sostanzialmente? No, in questo caso no. Hanno scura visione, perfetto. Il lupetto si è nascosto anche lui sott'acqua. Sì, si è messo nell'angolino lì sotto. Allora, che cosa hanno loro? Sì, quasi attaccare. Comunque era perfetta una palla di fuoco nel corridoio. No, infatti, secondo me quasi quasi era meglio. Vabbè, comunque così vanno tutti su di me e poi voi potete attaccarli. Vabbè, tanto siamo tutti vicini. Ok, uno di questi comincia piano piano ad avvicinarsi perlustrando l'area circostante. Ma in questa situazione si può tipo preparare un attacco? Cioè posso dire se attaccavessi mi muovo? Che non siamo nei turni, non so. Sì, nel mio caso non lo farei, visto che io sono tipo l'ultimo, cioè io tipo andrò tra tre turni. No, se attaccano uno di noi mi muovo. Ah, ok. Dipende se sei prima o dopo. Lo puoi fare quando sei all'interno dell'ordine di iniziativa. Esatto. Per adesso il combattimento non è ancora iniziato. Però stiamo tendendo una sorta di agguato. Adesso vediamo cosa succede, dai, poi vediamo. Per adesso non state facendo niente. E il tizio comincia a guardarsi intorno e a un certo punto sentite provenire dall'angoletto in cui è nascosto il lupo un lugubre verso del tipo e vedete che fuori dal pelo dell'acqua salta fuori la testa di uno zombie e poi si rimerge. Il tizio, che è appena sceso, la guarda, poi alza le spalle e comincia a camminare nella direzione opposta. O almeno sentite l'acqua che si smuove, sempre più lontana, per coloro ovviamente che non hanno scuro visione, che penso siano praticamente tutti. Quasi tutti, tranne Garrosh. Ah, Garrosh! Ray McGarrosh, esatto. Cioè, inglesizzato. Anzi, chiamiamolo. Diventato Royal Family McGarrosh. I White piano piano si allontanano. Non hanno lanciato della roba. Hanno lasciato della roba. Sì, hanno lasciato qualche vedete che. Vedete, sentite che in qualche punto della stanza degli oggetti vengono lanciati nell'acqua. E, fatemi una prova di costituzione per trattenere il fiato. Io mi sono nascosto dietro le argini di ferro perché devo fare una costituzione per trattenere il fiato. Hai ragione, quelli che sono sott'acqua. Vai, ho fatto 6. Suppongo Athletics non poterlo fare. 20 di dado più 9 può bastare. Scusate, sì. Oggi sono carichissimo. Peccato che non faccia un cazzo di danni. Il mio PG sto tirando bene. Allora, chi altri era sott'acqua? Dai, io ho fatto 6, quindi direi che sono fuori ora. E va bene. Ho 16, però non so se ero sott'acqua. Scusa, tu che non ti sei neanche sporcato le mani, cioè a quanto pare non lo so perché non so dove mi nascondevo, ma la paura fa tu ti sei nascosto. Ma tu hai detto che non ti nascondevi sott'acqua. Però non c'è... Qua dove sono non ci sono oggetti. Gli oggetti sono qua. Ma la luce da dove veniva? Scusate. Una non aveva molte alternative. Quale luce? Boh, ma prima vedevamo, perché c'era una luce. La luce da dove veniva? Le spade. Ah, sì. Al buio, non vedendo oggetti, mi sarò messo anche io sott'acqua. E quanto tieni il fiato, sfortuna? 16? Sì. Atanas? Non eri, giusto tu, no? E chi è che manca? Reis? Eri sott'acqua? No, perché? Chiedo. Sono praticamente invisibile. No. Ok. Allora, quanto tempo si sta in apnea? Minutes. Però, ok. So c'è che cosa crudele. Pezzo è morto così, no, dai. Vabbè. No, no, non è morto. Vabbè, riemergerò, immagino. Tan tan tan. Tu mi hai tirato, hai fatto una prova di costituzione, hai detto. Hai fatto 6, quindi 1 4 più 2 più 4. 4 più 2, 6. Esatto. Ok. Dopo l'1 allora... in spell. Sì, considerando in che caso... è in un punto dove tocco. No, ma infatti non è quel punto. In tutta la zona tocchi l'acqua alta 90 centimetri. No, appunto dico, sono, non applicherei le formule dell'apnea. No. Adesso sto già che sarò tipo paralizzato, stordito, guardando un'altra cosa. Dai, dopo che fiducia che è il nostro master, oddio, non ha tutti i torti. No, appunto, però... capito, ma sono lì, cioè, riemergerò e sarò lì attaccato da 12, ma... Vabbè, ok. Ok, più che altro le esalazioni mefitiche dell'acqua in cui eri ti rendono poisoned. Puoi essere poison. Ma non è immune, sì, per una volta, sì, cazzo, sì, sì. No. Beh, questo non è posso, un poison magico. Non posso. Siamo nella Barovia. Non posso. È un veleno di strada. Non posso essere avvelenato. Questo è un c'è un paladino che inizia a bere tutta l'acqua. Non posso, cazzo, la bevo tutta. È un particolare veleno di strada che colpisce solo i paladini. Non puoi ammalarti, non no, puoi. No, sti cazzi, aspetta. Divine Health. Sei immune alle malattie. O hai un'altra cosa ancora che non mi ricordo. No, è vero, è malattia. No, dai, una cosa. Cazzo. Che inutile, illuso così. Più inutile di tutte le razze, di tutti i cosi, il paladino, cazzo, niente di mai. Va bene, qualcosa, ti senti un però. Po'. C'è qualcosa, cazzo. No, perché ne fai di danno? Vabbè. Lasciala un pochino, autocommiserare. Sapevo qualcosa, cazzo. Chi vi ricordo? Puoi usare 5 punti di Lay on Hands per rimuoverlo. Sì. Se no, cosa succede? Sono avvelenato? Hai svantaggio agli attacchi e alle prove. Per quanto tempo? Finché non ti passa questa cosa, non lo sai. Attack roll e ability check, sì. Vabbè, tanto farò il mio turno. Bene. Ora potete muovervi, non sentite più l'acqua che si muove. e potete riaccendere la luce. Uso light su... Ah, no, non posso usare light perché non vedo niente. Come non detto. Beh, nel momento in cui le spadine si riaccendono, rivedete... Ma se ne sono andati, cioè, tu li hai lasciati sulla mappa ma sono andati via in realtà. Sì, si sono allontanati e, non se... e poi non avete più sentito l'acqua che si... Quando mai si è ammalati nel co, che senso c'ha? Beh, c'è un incantesimo che ti dà le malattie e quello sei immune. Io voglio andare su a vedere che c'è. Ok, voleva andare anche Sfortuna, lo aiuti a salire? Se vuole andarci ancora. Subito usare... Sì. Beh, non so come posso aiutarlo a salire un muro di 3 metri essendo alto di 1,5 metri. Cioè, lo lancio. Oh, da... allungandogli posso... il manico del tuo martello, ci sono vari modi per farlo. Ah, okay. Può fare un acrobatic, sempre fare cose. Va bene, lo farò. Ok, arrivate sopra e al balcone. È vero, 5 put points per neutralizzare il veleno. Porca miseria. Vedi che non sei così inutile. Sì, vabbè, ho piatto 5 punti cose per una cagata così. Ok. Butto giù una corda così anche gli altri possono... Va bene, chi vuole? Cosa ti insegna? Ma prima non mi pulisco i vestiti con... Posso usare Athletics per nascondermi? Posso usare Athletics? Tu non devi dirlo. Mi ha fatto fare Costituzione, quindi non ha avuto i bonus. Tutte le modi ha trovato. Ok, chi vuole può salire con la corda che ha lanciato Sfortuna. Ma perché dobbiamo salire su? Boh, non lo so, per stare all'asciutto ad esempio. Però se vuoi stare a mollo... Ma noi abbiamo, c'è una porta su? Davanti a voi c'è una tenda che corre lungo. Noi non eravamo scesi qui vestiti, ci eravamo cambiati i vestiti per sporcare quelli belli. È così. Dobbiamo recuperare i vestiti. No, infatti sì, non so perché vogliamo salire su a far cose. Volevo solo vedere cosa c'era, io non volevo... Sì, vabbè, no, sali, noi intanto anche ci... Dire perché... Però dobbiamo recuperare i vestiti. Se magari troviamo una via secondaria per la torre, per carità. Allora, voi siete andati a recuperare i vestiti e gli altri due stanno a guardare sopra che cosa c'è. C'è questa tenda, che cosa fate? Percepisco niente con il Detect Magic. Ancora attivo? Sì, potrebbe essere ancora. L'hai attivato prima dello scontro con gli zombie? Sì. Allora si è disattivato mentre cercavate le cose sott'acqua perché ci avete messo 10 minuti. Detect Magic dura 10 minuti. Ah, non rifaccio. Quindi altri 10 minuti. Più. Stiamo aspettando. Vabbè, da tanto festa la tenda. Bravo. Dietro la tenda c'è una porta. Si immagino Marco. Vabbè, dai. Ha una toppa da cui sbirciare. Sì. Sei un barbaro, tirala giù. No, vabbè. Chi ha osato mettere una porta davanti a me? Boom. Ti ricordo che tutto questo posto tu uscivo l'hai spaccato con un mega martellone. Esatto. Infatti non capisco come ha fatto a ricostruirlo così in fretta. 16 in percezione. Se si Ok, guardi all'interno. Ho dato una descrizione, rega, si è schiarito la voce. Esatto. Ha sbloccato. L'interno della... Stiamo facendo di tutto per evitarli. Camminiamo bendati, ci caviamo gli occhi. È vero, Giulio l'ha fatto. Avevo anche spento la luce prima. L'interno della stanza è illuminato da un grandissimo braciere di pietra. La fiamma brucia fiera e bella nutrita al centro della stanza, ma questa bianca e alta fiamma non produce calore, o almeno non percepisci dove sei tu. Il bordo del braciere nel bordo del braciere sono scolpite 7 piccole coppette, coppette più piccole, attaccate al corpo centrale, e, che lo circondano, che fanno il giro intorno a braciere. Dentro a ognuna di queste coppette c'è una pietra sferica, più o meno del doppio del diametro di un occhio umano. Allora, e... io credo di aver capito, il mio PG è in grado di capire cos'è questo braciere. Io ve l'ho descritto, se ve lo ricordate. In teoria lui ce l'ha descritto, ho visto Luce usare quelle descritto. Pietre, per cui... E... capisci che è la stanza del braciere. Lo vede tu Garrosh, boh, secondo me mi sembra che sia un fuoco e poi provi a darti qualcosa. È un fuoco magico con le pietre colorate, alla fine. No, vabbè, è quello che mi hai descritto, è quello, riconosci dalla da quello che vedi la descrizione che ti aveva fatto Atanas. Sopra il braciere c'è una gigantesca clessidra e che sta appesa al soffitto, pende dal soffitto circa 10 piedi sopra il braciere, sospesa da delle spesse catene di ferro. Ti chiedo una cosa, le pietre ci sono tutte e 7? Non le vedi tutte da dove sei. Ok, però quelle che vedi ci sono, quindi circa metà le vedo. Ok, e gli altri sì, perché se non ci fossero non le vedrebbe. Sì, vabbè, magari ce n'è due, gli altri no. Quello dicevo. L'udito senti il fuoco che brucia e questo copre qualsiasi, potrebbe, insomma. Non senti altri rumori perché altrimenti verrebbero, verrebbero coperti dal bruciare del fuoco. Vedi sì, ai lati... Prima cosa utile della campana. Non è mai troppo tardi. Ai lati della stanza vedi che ci sono due gigantesche statue che raffigurano due uomini a cavallo. Riciclata. Da cosa? Perché questa stanza è già stata vista da qualcuno di noi, quindi è una descrizione sì, doppia, vale di più. Sono passati tipo 2 anni dall'ultima volta che ho visto questa stanza. in tempo reale, ma il tempo del gioco è qualche settimana. Esatto, ma sì, neanche un paio di settimane forse. Due uomini a cavallo, riconosco uomini, vabbè, magari non li vedo neanche bene. Esatto, nella posa della carica e con le loro spade sguainate. E se non mi dici altro, io torno da Sfortuna e dico, tu con le tue abilità cosa percepisci? Saranno passati pochi secondi, per cui tra un po' arrivo. Alla gadulla magica. Non mi disturbare. Vabbè, mi siedo sul trono mentre lo aspetto. Ok. Nel frattempo gli altri vanno a prendere i vestiti. Sì. Arrivate dai vestiti e cosa fate? Vi cambiate? Sì. Li portiamo dove... No, andiamo a vedere se gli altri... Mi cambi. Ok, Rhys si mette di nuovo i vestiti puliti. Quindi io prendo, vado a vedere non vi mettete le armature. Ma li ribagni, Sal? Ma perché dobbiamo passare di là per forza? No, non lo so. Io non me li sto mettendo perché non so se cosa stanno facendo gli altri. Allora non mi mi sono vestito, mi svesto e mi ricambio con i vestiti luridi, li metto sopra la testa e li porto. È passata in fretta la scena, prima non ci siamo tra virgolette messi d'accordo. Io avevo capito che andavate a prendere i vestiti e si ritornava qui. Se invece è il contrario, vi raggiungiamo noi. Ma noi che cosa stiamo cercando qui? Cioè, a parte quello che avete visto voi, di cui noi non siamo... No, io ho dato solo un'occhiata. Okay. Però visto che qui di la base zona noi sappiamo che si arriva di qua e torniamo di qua, quindi noi ci stiamo aspettando qua. Quindi siamo noi che dobbiamo raggiungere voi, non il contrario. Ma noi non sapendolo andiamo da lì. No, a meno che voi non ci diciate, ragazzi, qua c'è una cosa super importante, venite. Non vi vedi, non siete qui, quindi non possiamo dire quello. Io dico, però nel caso tornate indietro e ce lo dite. Io dico bravo al lupo. Oppure ce lo urlate, non lo so, come volete. Ha fatto una gran mossa. Oppure lupo, Sfortuna, ci manda il gufo. ed è felice. Mi faccio un grattino dietro la testa. Lo apprezza molto. Se l'idea era che noi raggiungiamo voi, vi raggiungiamo. Ma cioè, noi non sappiamo che di là ci sia una strada di base, quindi noi andiamo siamo per tornare indietro dopo che abbiamo fatto l'operazione qua. È chiaro che voi avete scoperto una cosa che magari può essere interessante, se ritenete che ci sia da... Vabbè, vi raggiungiamo e vi raccontiamo cosa abbiamo visto. Ok, cioè sì, quello è il punto, oppure ci mandate il gufo, cioè quello, però noi ovviamente, di per noi, non è che diciamo, saltiamo i bastioni più alti. Mentre Gallo va indietro a parlare con gli altri, ho finito il mio Detect Magic. Non ancora, non è successo molto nel frattempo, cioè non è passato molto tempo. Vabbè. Come abbiamo detto prima, non devono passare 10 minuti nella vita reale, Kata. Comunque, no, vabbè, però magari cioè, tu hai tutto il tempo di andare da loro e esatto. Devi dirmi che cosa fai. Se mi dici sto lì, aspetto, allora sì, sono passati 10 minuti. Sì, sfortuna, poi sfortunato. Sì, aspetti 10 minuti. Va bene, se gli altri nel frattempo. No, se io non vedo che questi qua arrivano, le vado a vedere. Oddio. Ok, Atanas, no, il discorso, aspetta, fermi un attimo. Il discorso è: quando ci siamo separati, nessuno ha detto niente. Ma se il piano è ok, voi... e quindi però capisci allora che lì allora, dovrai non, decidere. Non devi dire nient'altro. Tu hai detto: sto qua ad aspettare. Ok, gli altri aspettare, esatto. Noi vediamo arrivare. Distran dice: Atanas dice, vado a vedere che fine ha fatto. Post. Va qualcuno con Atanas? Sì, vado io, portandomi dietro i vestiti. Okay. Ma sui vestiti però dopo li paghiamo. No, rega, fanculo, sarebbe tutte e due vengo anch'io, che cazzo sto a fare? Sì, cioè, non siamo immersi fino a, alla testa. Allora tornate tutti indietro. Americani. Vabbè, arriviamo all'ingresso della stanza. Sì. Sono i due personaggi più tediosi, cioè, fortuna che non c'è Arci, che sarebbe esatto. In un altro posto. E prendo anche i vestiti di Garrosh, sfortuna, forse sfortuna non se li era cambiati. No, bene. Perché io tanto posso pulirli, non so perché ho fatto tutta sta roba per cambiare i vestiti, ho preso digitazione, puliti, fine. Dove sono? Vabbè, siamo saliti la su lavanderia. Così. Sarebbe stato vabbè. Carino dirlo prima, però... Sì, no, giustamente lo fa lui, lo fa, però cioè noi... Io lo faccio di continuo, l'ho fatto 5 volte. È una lavandaia, ma dire a noi tipo posso pulirvi i vestiti il cazzo, quindi va bene, dai, sono passati 10 minuti. Capisci bene che le persone normali comunque devono torno indietro e faccio allora esatto, sono passati 10 minuti. No, sono passati 3 minuti per fare sta cosa qua. Qua dietro c'è una porta e nella stanza accanto c'è il braciere e sfortuna si è messo a fare un rituale per vedere che cosa arriva di là e volevo... Che braciere? Quello che ci hai descritto tu, il calderone, il braciere. Dobbiamo salire? Quello che usano... Questa è una gran mossa, sì. Porta direttamente... C'è una pietra che porta direttamente alla torre. Allora saliamo. Prego, comunque. Cioè, oddio, non so se uno usa, se Strad lo sa che è stato usato. Questo non lo so. Aspetta, fermi un attimo, intanto vediamo... Io non so se al di là ci possa essere qualcuno, non sono entrato nella stanza, per cui primo non urliamo, cerchiamo di fare piano, sì, e secondo però, vediamo cosa rilevo. Aiutaci in qualche modo a capire che cazzo succede. Cosa vuol dire, ragazzi? Che noi non sappiamo, cioè non eravamo lì, quindi non sappiamo le cose. Stiamo già urlando da sotto. Ho guardato, nella stanza accanto c'è il braciere che usa da teletrasporto Strad, l'ho appena detto. No, sì, e lui sta facendo un rituale per vedere cos'altro ci può essere. Vabbè, quindi saliamo su, insomma. Ok. Va bene, io a questo punto dico, allora, una cosa potrebbe rivelarsi molto utile, oppure boh. Perché... Perché c'era una pietra nel braciere che portava alla torre. Ok. Il problema è, se uno utilizza il braciere, Strad lo viene a sapere, a questo non sa dare risposta. Posso provare a fare un'investigation, però. Bravo. Però lo devi fare, con... Che cos'hai di basso, Giulio? però niente, faccio con Charm. Perché ho fatto 1 più 5, 6. Sì, ma lo hai fatto con addestrare animali? Comunque no. E non, dai, non, tira l'inspiration. Non potresti saperlo. Non penso che nessuno abbia la risposta a questa domanda. Non ho idea. Il tuo istinto cosa ti dice? Beh, non lo so, ti ho detto non ne ho idea. Vabbè, il mio istinto mi dice che sostanzialmente Strad è adesso, secondo me, è più... è impegnato al matrimonio... Stavo per dire, io prendo sperare che non ne ho idea. Secondo me Strad in questo momento è troppo pieno di sé per preoccuparsi di queste cose. In teoria dovrebbe aver abbassato la guardia, soprattutto verso di noi. Siamo e anche se così non fosse, poco male, nel senso che... tanto sono qui per completare l'opera. Magari qualcuno che se ne intende di magia arcana potrebbe capire come funziona meglio una cosa. Sì, ma è seduto lì e da mezz'ora che sta facendo un rituale di 10 minuti. Adesso il rituale finisce. Lanci Detective Magic. Vedo le vostre spade magiche. Esatto. Oh mio Dio, un sacco di magia perduta qui. È il mio zaino. No. I miei occhi. Bene, cosa fate? Chi entra nella stanza? Cosa ci devi dire cosa vede col rituale? L'ha finito. Lì dove è? L'ha detto lui, vede le vostre spade magiche. andiamo a vedere questo braciere e vedere se riusciamo a scoprire qualcosa. Bene, chi entra nella stanza? Spacchiamo tutto, mi prego. Entro io. È l'unico modo. Ah, vabbè. È l'unico modo. Tutte volte devo entrare. Vabbè, io lo dico prima che sia stanza. Sfortuna che è stato completamente inutile, ci ha fatto perdere un sacco di tempo. Che è stati qua 20 minuti a aspettare, poi ci ha detto niente. No, magari lui ti dice ci sono cose meravigliose. Non so. Ok. C'è della magia in questo edificio. Esatto. Apri la porta ed entri nella stanza. Percepisci con Detect Magic una potentissima magia provenire dal braciere e dalla clessidra. Riesco a capire che tipo sopra. Di scuola è? La scuola è quella media. Liceo. L'università della vita. Della strada. Università di Barovia. Strada. Ah, University of Barovia. Conjuration, che è la scuola in cui tra gli altri compare anche incantesimi come teletrasporto, U-bar. Eccetera. E oltre a clessidra e fuoco, anche le pietruzze sono magiche? Le pietruzze sono imbevute della stessa magia che sgorga dal braciere e dalla clessidra. E le statue non sono magiche? Della stessa materia di cui sono fatti i sogni di loot dei giocatori. E di level up, aggiungerei. Dalle statue non percepisci provenire della magia. Dico, ragazzi, è una cosa per il teletrasporto. Vabbè, questo... Davvero? Davvero? Allora, passando... Non avevamo aspettato 10 minuti. Mi tiro un coppino, che se lo capito, e poi chiedo ad Atanas se capisce... Dari un coppino che arriverai alla sua... cioè, alla sua salta, schiena. Qui può fare un atletico. Col martello da guerra. Fa un saltino. Mi vuoi decapitare col martello da guerra? Sì, l'idea è quella. No, scherzo. Tipo malvagio, chiedo... direi che ci sta in realtà. Esatto. È molto a rischio. Chiedo ad Atanas se... cioè, sulla clessidra, se per lui vuol dire qualcosa. Lui che ha già conosciuto queste stanze, questa roba. Io guardo intensamente con le mie orbite vuote, Gabber. Sì, esatto. E dico, allora, io ho visto questa stanza... visto potresti come funzionano le cose con gli occhi a molla che cadono e ti dico io ho visto questa stanza, ho visto come funziona, ma io di magia arcana non so una sega. Apri gli occhi. Ok, bastava dire no. E una volta che, adesso che avete una visuale più chiara, vedete che la sabbia nella clessidra è bloccata tutta nell'estremità superiore e non riesce a scorrere verso il basso. E poi nella base della clessidra vedete che vi sono scolpite con delle lettere sbrilluccicose della poesiola che si ricordava Athanas. Dove per ogni colore dice una descrizione. Esatto. Ah sì, giusto. Vabbè, allora faccio un'arcana giusto per controllare. Uso. Vabbè, mentre lui fa un altro dei suoi rituali, le pietre ci sono tutte. Sì. Ecco, sfortuna, in modo da beccare un tiro alto. Che significa buttati da beccare un tiro alto? Serve che tu faccia un tiro alto in modo che capisca come funziona sta roba con più precisione possibile. Fatto 22. Accettabile. Capisci. Il braciere è infuso di magia e anche per quello la sua fiamma non brucia. Con un incantesimo di dissolvi magia la sua fiamma può essere temporaneamente estinta. E se il braciere viene distrutto, chiaramente la fiamma perisce. Interessante. Appunto, intorno al braciere ci sono queste palle, queste pietre di colore rosso, arancio, giallo, verde, blu, indigo, che penso sia indaco, grazie, e violetto. Lanciare una di queste nel braciere provoca la fiamma, la fiamma assume la colorazione corrispondente. E io sono chiaramente il Power Ranger nero e lo prendo la pietra. No, non c'è pietra nera. E allora ha fatto cosa da figa. O la gialla asiatico. Quando una pietra viene lanciata nella fiamma, la sabbia della clessidra comincia a scorrere e qualsiasi creatura che tocca la fiamma viene teletrasportata nella location a seconda del colore. Dopo 5 round la sabbia scorre per 5 round e dopodiché il colore della fiamma ritorna bianca. Quando ciò succede, la sabbia riappare nella cima della clessidra, se questa è intatta, e la pietra che era stata lanciata nel braciere riappare nella sua nel suo posto. Non abbiamo modo di sapere se e quando è stato usato. Quindi, andiamo alla torre. Quindi il dubbio di Athanas del fatto che Strahd possa sapere l'utilizzo di questo non si può sapere. Quello non lo sa nessuno. Vabbè, alla fine okay, descrivo questo funzionamento. Cioè adesso le idee sono o andare in maniera normale. Beh, però diciamo che sapendo che dopo 5 round ritorna come prima, cioè anche se Strahd capisse che è stata usata, non saprebbe chi? Per andare verso dove. Non lo sappiamo se lui percepisce quanto e cosa percepisce. Magari lui percepisce che 5 creature sono passate per andare alla torre, che ne so, noi non sappiamo quanto posso percepire. Però per me rileggo nel frattempo la descrizione della la filastrocca con i colori. Il violetto porta alle spire della montagna, l'arancio alla cima del castello, il rosso se stai cercando la conoscenza. E il verde nel, dove si nascondono le bare, l'indaco dalla moglie del, del padrone, il blu nell'antico ventre della magia e il giallo nella tomba del, del padrone del, del maestro, che salutiamo. Maestro. Maestro. Sì, non lo so, io sarei per usarlo se l'alternativa comunque è attraversare praticamente tutto. Siamo arrivati fin qua, si è fatto salire, certo che lo usiamo. Vai, spalma sto arancione, andiamo. Ah, no, l'alternativa è attraversare il castello con mani e tutto. Oddio. Rischiamo di farci beccare. Vai, arancialo. A questo punto, prima di attraversare, mi metto l'armatura e mi cambio. Sì, vale per tutti noi. Chiaro. Indossate l'armatura. Armatura e vestiti buoni sopra, quindi. Esatto. Sotto l'armatura, immagino. Non sopra. E poi succo d'arancia per tutti. Mettersi una camicia sopra, ho capito, l'armatura. Ma se, sì, ma se devi non farti sgamare... Ci sarà una mantella, magari, una mantella sopra, ma il vestito non può andare sì, sopra l'armatura. Se siamo in armatura, ci sgamano subito. Ho capito, ma è impossibile. Una vetta tua armatura ha delle placche giganti, non è che poi metti sopra la camicia e dici, sono fortissimo. Sono grosso. Cioè, dipende dall'armatura che adeguati. Avrò preso dei vestiti adeguati allo scopo. Se una cotta di maglia si può anche fare. Io ho una mezza armatura, è impossibile mettere dei vestiti sopra la mezza armatura. Meglio. Tu puoi anche riuscire a farlo, cioè, e allora lo faccio. Se la tua manovra. Se il master mi dà il, il permesso, ma il master mi dirà: fai un tiro di. Aspetta. Ti sono caduti i vestiti nella mente. Però se ora hai l'armatura. Quindi svantaggio. No, tipo medievale. In teoria potrebbe farti fare un tiro di raggirare per dire. Sì, è vero. Vero. Vai. Fai un tiro di un disguise sarebbe. A me va bene deception, Deception. Do vantaggio io. Ho comunque aiutalo. Ho vantaggio? Sì, poi. Vantaggio. Sì, Resti ti può aiutare, sì. Dai, un tiro discreto. In realtà potrei vestirti io. Allora, 13 più 3 più di carisma. Posso mettere il più di 3 di carisma, vero? Certo. Allora diventa 16. Certo, chi è che non si veste con carisma? Beh, fottete. Chi si veste bene lo fa. Allora io vado da Giulia e dico fottiti. Ma io ho detto che tu con la chaimail puoi anche riuscirci, io con una mezza rottura non ha senso. Va bene, ognuno si veste come gli pare. Cioè, fisicamente non è possibile mettere dei vestiti sopra una mezza armatura. Ma posso mettere una giacca d'Armani sopra la mezza? Sì, puoi mettere una giacca d'Armani. Sì. Beh, quella è strutturata, quindi anche se la tua armatura è strutturata. Cioè, magari la strappi un po' dopo, però. Ok, vi vestite tutti per bene, chi più o meno. E adesso che siete pronti, che cosa fate? Usiamo il braciere, allora. Pietra d'arancione? Come funziona? Si entra dentro? Si lancia, poi abbiamo 5 nelle fiamme e poi entri nelle fiamme. Vai, entriamo tutti insieme. Sì, ok. Abbiamo 5 turni. Chi va per primo? Diagonale. Vai, vado io. Ok. Diagonale. Allora. A cosa ha detto? Ringraziatemi che questa scorciatoia il ci mio più grande amico 27... lui è sì, allora, è vero, ci trasportiamo e c'è strada che ci aspetta. Sicuro? No, sarebbe troppo breve. Grazie Garrosh. Esatto, fortuna fa apparire nelle fiamme un megatron gigante. Arrivi, wow. Compari nella cima della torre nord, sei in mezzo alla stanza. È una stanza buia e con delle manette attaccate ai muri. I giochini di strada. Esatto. Questa è l'altra sala di giochi. Ah, e tra l'altro nel centro della stanza, quindi dove compari tu, c'è un letto. Con con le manette di legno. No, con i lacci di pelle. Ah, i lacci di pelle, ok. Al piedi del letto è più fetish. Ai piedi del letto c'è un forziere di ferro e sopra il coperchio vi è scolpito un emblema. Esatto. E c'è una scala pioli di legno che arriva ad una botola sul tetto, sul soffitto, che è fatto tipo a cono, la sommità della torre. Stream in pausa. Uno stream è in pausa. Dovrò ripetere la descrizione da capo. No, vabbè. No, ce l'hai detta. Sì, no, io non ho sentito bene la gap. Dai lati di questa botola stanno scendendo due rivolini di acqua che penetrano attraverso il legno marcito. Bisogna fare della ristrutturazione. C'è un 110%. Esatto. Interessante. Al lato della stanza c'è la scala a, come dire, la scala a chiocciola che gira nel perimetro interno della torre, che porta ai piani di sotto. Che mappa è, Cattino? Non c'è questa, perché è tipo una sola stanza. Sarebbe potrei, vabbè, caricare. No, poi mi spoglierò. No, vabbè. Direi che nel mentre abbiamo raggiunto. Dopo appunto qualche istante arrivano anche gli altri. Quanto? Ah, ok. 12. C'è qualcuno questo, di noi che ha tipo il corpo da mosca? Minchia. No. carino questo. No, siete ancora interi. Ok, devi fare punto esclamativo play e poi la... Cosa vuol dire? Devo fare play dove? Dove hai messo il coso? Per far partire il video devi fare punto esclamativo play e poi l'indirizzo, attaccarci l'indirizzo. Non è partito. Perché non hai fatto, non c'è la giusta sintassi. Scusami, gli altri... rega, mentre c'è questa pausa, scusami, io play... vi saluto così e vi lascio. L'hai messo? Giocare alle vostre cazzate. No, aspetta, però posso andare avanti? Vado a mangiare i miei calli. No, rega. No, dove vai a mangiare i calli? Buon appetito, maestro. Ciao, rega, ci vediamo la prossima volta. Ciao, che vorrà internet. Ciao, Salla. Ma posso andare avanti? Affiderei ad Agrid la mia stessa. Marco, si può mandare avanti, non mi ricordo tutte le istruzioni. Sto guardando. Sveglia, alzati. Vabbè, che è dopo poco. Subito. Sveglia, cosa? Punto esclamativo, forward e tempo. No, vabbè. Tanto me lo ricordavo diverso Harry Potter. Esatto. Che cos'è? No, c'è la parte che voglio tra un po'. Credo. Proviamo. A che punto è? No, ma secondo me intanto già un minuto. È passato un minuto, no? Perché dopo un minuto è qualcosa. Cos'è successo? Eccolo. Tu sei chi? Beh, c'è chi dice che è morto. Ah, ok. Bagianate, così penso io. No. Per me è ancora in circolazione. No. No. Per me è morto. No. Per me è un mago. No. Per me una cosa è assolutamente certa. È morto. No. È ancora in circolazione. Via, la agiti. Va bene, basta. No, però in realtà c'è un'altra parte anche più bella che non no, è qua. Assolutamente però. No. Mi scusi. Ma loro andavano avanti e indietro con le pietre, no? Esatto. Sì. Mentre noi solo avanti. usando una pietra che sarebbe stato utile, che ne so, prendere quella per andare alla catacomba di Strad, però devi sapere il punto dove usarlo. La filastrocca ce lo dice. No, la filastrocca ti dice, no, dove ti portano le varie pietre. È un mago. Ma il punto di partenza devi sapere. Dai, devi sapere, va bene, siamo qua, combattiamo. Sarà il punto di arrivo, no? Se perdiamo tempo parte una descrizione. Parte è una buona, un buon guess, però non è detto che sia così. Vabbè, siamo nella torre però comunque. Sì, siete nella torre. Davanti, sopra di voi c'è l'ultimo piano, il cucuzzolo, come si chiama, e sotto, sì, c'è la scala che, esatto, e sotto c'è la scala che scende verso i piani inferiori. Allora, noi questa è una pietra rossa. Cosa dobbiamo fare? Adesso ci state per arrivare, non siete ancora qui. Che cosa dobbiamo fare? Siete al piano di sopra. Dobbiamo fare che dobbiamo cosa? Dobbiamo cercare roba per liberare Ilia dal... da team e gli altri compagni. No, ho detto bene. Ma, io ho capito Iliad. Io ho capito Iliad. No, Ilia. No, stavolta ho detto Ilia. Vabbè, vedremo. Una cosa assolutamente certa. Ma non era che in cima alla torre c'era il cuore? Ragionate, dico io. Ok. Voleva dire allora, mobile. E quindi, ricordate a Bardistan che cosa dovete tirare qua. Ma sfortuna, stavi dicendo giustamente che in cima alla torre c'era il cuore di Strad che dovevano distruggere per indebolirlo. Ok, questo però non uccide Strad, okay. Va bene, facciamolo, presto, andiamo. Okay. Ignorate le descrizioni che troverete di fianco a voi, andate a confiare il cuore. Tappate, esatto, gli occhi e gridate la la la la la. No, chiedi a Giulio, non serve a niente. Vai, saliamo la allora, scala. La scala stealth spirale non ha, no, sì, non, diciamo, ha scorrimano. Ah. E connette, vedete che lo strapio, come dire, il centro della torre è cavo. La tromba delle scale va fin giù, di tipo arriva fino a uno strapiombo di 100 piedi. 100 milioni. Fino, sì, esatto, e poi più in là appunto non vedete oltre. Riuscite a vedere fin là perché tutto l'interno è illuminato da questa spettrale luce rossa. Questa luce è portata da questo gigantesco coso. Google. Questa specie di... Questo gigantesco coso informe, deforme, tentacolare. A cui nessuno può sottrarsi. È una descrizione di Google molto attendibile. Grazie, ma c'era nelle cose caricate. Ah, sì, è vero. Okay. Chi è che mi suona? Sono le pizze. Vale. Quanto costa una bomba termobarica? Cacchio. La questura, Vez. Okay. Si possono fare i party in Italia ormai? Sì, ormai. Non c'è neanche il coprifuoco adesso. In effetti ha aggiunto una D, ma dopo un po', cioè ha detto Ilia e dopo un po' ha aggiunto una D a caso. Tipo Ilia. Qualche bulletto. È il subconscio che... Va bene. No, ho suonato, rega. L'avete sentito anche voi? Sì, l'abbiamo sentito. Infatti eravamo pronti a chiamare... Cioè... No, qualche bulletto. Non sei andato qualche a rispondere? Fan, forse qualche fan. No, sono andato, non c'era nessuno. Però. Qualche fan. Era fuori comunque. No, è... C'è una era la questura, dai. Per casa di me. Esatto. C'è un sacco di pakistani con lo smartphone. Capo, non funziona. Capo, cazzo fai, capo? Questa è la vista che vedreste venendo da sotto. In realtà voi state venendo da sopra. Quindi vedete appunto la scala chiocciola che percorre la lunghezza della torre, mm-hmm. e alle pareti sono attaccate ai muri per tutto il percorso delle alabarde. Praticamente di fronte a voi c'è questo grosso oggetto che sembra fatto di un vetro colorato e sbrilluccicoso, al cui centro appunto c'è qualcosa che emette questa luce rossa, mm-hmm. e scorgete al suo interno una figura un po' tipo rannicchiata in posizione fetale di fianco alla fonte di luce, che però vi impedisce di distinguerne chiaramente i contorni. Vi avvicinate un po' scendendo la scala, quindi arrivando da qua. Salendo la scala? Scendendo la scala, voi siete sopra. Noi siamo partiti dalla torre. Sì. Non è sopra quello che vediamo, scusa l'immagine. No, è sotto. No, è sotto, è sotto. È perché state venendo da sopra. Sotto, ma noi veniamo da sopra, quindi vediamo quello ma ribaltato. Cioè, veniamo da sopra. Esatto. È a metà, quindi. No, è in cima. Esatto. Quindi voi arrivate, scendete le scale e ve lo trovate praticamente, praticamente davanti. È in cima alla torre, ma sotto la stanza a cui siamo arrivati. Oh mio Dio, va bene, lo distruggiamo. Questa torre ha più cima, ragazzi. A vari livelli di cima. Va bene. Esatto. Ok. Nel momento in cui... Se c'è roba nella stanza. Ah, già. Nel momento in cui muovete i primi passi nelle vicinanze di questo oggetto, sentite un tremendo scossone. Praticamente come se lungo tutta la torre questo, come se fosse quasi un terremoto molto forte. Ma scritto Fabbro di leggere i commenti. E trascuriamo i nostri fan. Magari è lui che l'ha suonato. Sì, ma non si faceva vedere. Non si faceva vedere. No, ma ti ha suonato solo perché voleva essere risveglio per leggere i commenti, ma... Io non lo so, non c'era. Ma mi ha scritto di leggere i commenti. Sì, ma l'ho letto il portone. Oh, se ci fate salire le schiene, le scale, sottotono, apri. Sì, ma non c'era. E qua di nuovo risuona. Che coglione. Social special guest. Oh, c'è il coprifuoco, hai anche mangiato cinese, cagato tutta la solita tutta la notte. C'è il coprifuoco. Ciao, ciao. E a mezzanotte. Poi in teoria lunedì l'Emilia Romagna entra in zona bianca e non c'è più. Non so neanche come dargli il coso, aspetta, devo collegare l'altra cuffia. Vez, tu che magia hai? Non ti sente adesso. Potremmo assistere ad una scena di problemi tecnici. State pronti. State collegati. La sentiremo sicuramente. Nel frattempo tiratemi un'iniziativa. Eccolo. Appena Vez si riconnetterà. Aspetta. Ho fatto 15. Un tiro con vantaggio. Catta tiro con vantaggio. Ho fatto un 1 e un 2, come la vedi? Grande. Allora. Che ricarico, mi dici. Sicuramente. Nel frattempo tirate l'iniziativa. Sì, mamma mia, che qualità. Sì, sentirai da qui. Questo lo togliamolo, che è inchiamabile. Ciao. Pronto? Ciao. Pronto, mi senti? Prontone? Allora, qui non sei nella telecamera, però è lì. Prontone? Allora, io non ho una cuffia, una cuffia. Ciao. Vabbè, ma io ascolto senza ascoltare. Allora, io voglio capire una cazzo di cosa. Le scale, le scendete o le salite? Le scendiamo. Le stanno scendendo. E quindi? Ok, noi vi abbiamo sentito. Quindi adesso comunque prendi un dado da 20 facce e tiralo. Prendi, è questo il dado da 20 facce. Dai, su, sveglia, 20 facce. Sono 20 facce. Grida la parola iniziativa. Ok, sto tirando il dado da 20 facce. Contale, controlla che ne abbia 20. Ha fatto 18. No, ho fatto 4. Bravo. Ha fatto 4 o ha fatto 18? No, 4. No. È abbastanza una merda. Sì, ma è normale per me. Sono i dadi diversi. Sì, vanno normali questo effetto. Quanto... Cazzo meno uno, mi forse. No, un'altra cosa. Quanto costa sto dado da 20 facce? Una merda. Quanto costa, boh? Un paio 17, d'euro, io ho fatto 17. Lei 17, brava. Io 4. Quindi facciamo 21. Stick on tier. No. No, mi servivano entrambi, avete fatto bene a tirare due volte. Ottimo. Tirare 17 strade, mi sa. Quindi? Avrò mangiato i tortellini in brodo, sì. Con la birra. Bene. Sì. Ora mi servono i valori anche degli altri. Io ho fatto 18, Katta, te l'ho detto 6 volte. Io ho fatto 4. Non ho sentito. 18, tu hai fatto 4. Vardistran. Aris non c'è. C'è Vardistran, ha fatto 4, gli era lanciato... No, quella è un'altra cosa. Sfortuna? 15. No, è 4 quello diverso, dai. Tanto, dai, no, è 4. Quello diverso è 4. È 4, bene, no, quello è 4. Ho tirato 4. È un tiro alto per Vezzi iniziativa, dai, riga. Va bene, facciamo così. Ok. Quindi appari merito con te. È bello che Vezzi... Ma ci sì, che Vezzi non... No, ho capito, sto segnando il discorso. Mi ha tolto il segnare il discorso. Ok, mi dite quando posso attaccare la Kamchatka? Sì, è molto presto. Ok. Allora, man mano che vi avvicinate succedono due cose. La prima, appunto, l'interno della torre comincia a muoversi come se fosse un gigantesco essere vivente, e provocando chiaramente seri problemi a restare in equilibrio mentre siete in questa situazione sospesi quasi sul vuoto. Dagli una fuffia che non sbaglia. Ognuno di voi. Hai fatto 4 che... iniziativa. No, sti cazzi, adesso ritiro. No, è il dado da 20 facce, quello lì. 6. Allora sì, va bene. Ma è quello il dado da 20 facce. Sono tutti i dadi da 20 facce, Fabio. Ce ne sono tipo 30 di dadi da 20 facce. Poi un dado da 20 facce più grande. Oh, cazzo. Guarda, va bene, Katta, vai avanti, stiamo perdendo tempo. Vado avanti, hai ragione. Ho proprio questo giocatore, mi piace. Infatti, esatto, dovresti venire più spesso. Chiunque di voi che non sia prono o attaccato a un petto, a qualcosa di solido, deve superare un tiro salvezza sulla destrezza CD10. Vale per tutti. Siamo... E più solido perché viene giù la scala sostanzialmente? Perché la torre comincia a muoversi come se fosse un gigantesco tentacolo, fai conto, una specie di... come posso descriverlo? Vabbè. Come se tu fossi... 26. Vale anche per me, Katta? Uno tra piano, più 3, rega. Sì, avete il bonus 20... di Vardistran. 29. Io ho vantaggio, Katta. Ora... può darsi. Un tiro importante. Può darsi. Sì, ho vantaggio, no, per il discorso 14. Che io più 3, sì, per 7, quello. Okay. Ho vantaggio. Okay. Sì, hai vantaggio. Ah no, devo tirare con svantaggio io. 14. No. Ok, direi 14, che l'avete superato. Ci sta. Bravo. So c'è sveglio, ragazzo, Dovresti venire più spesso. Sai che forse come supporto Vest dovresti venire più spesso. Sì, no, non ce la fa. Lo so, ho sempre detto io. Ma non molto sto bene. Sentendo, bello questo. No, ma è bellissimo. Vedi, no. Continuiamo. No? In che esatto. Vest sente bello questo. Nel frattempo, quante sono? No, una cuffia ce l'ha. Mi dovrebbe sentire. Sento. Ok. Nel frattempo, 10 delle alabarde che sono appoggiate ai muri si liberano in volo. Bene. E si avvicinano per attaccarvi. Per fortuna noi siamo sott'acqua. Esatto. E non navighiamo. Atanas, sei il primo della fila. Perché hai rubato la sedia? Tanto il mio turno. No, non posso imbucciare una barda e usare una barda. No, no, no. Vez, sei prima di me. Ah, sì? Puoi provare a prendere una lotta. Io tiro con vantaggio, ho fatto un 1 e un 2. Provo a spezzare una alabarda. Allora, attacco una alabarda. Attacca una alabarda. Attacco una alabarda. Ho fatto un critico, un 20 e un 20. Direi che l'hai colpito. La classe armatura è 15. Critici con delle alabarde. Top. Oh. No, con... Tra l'altro ho fatto critico con la spada. La spada magica. Ah, tra l'altro mi dimenticavo perché più uno della spada magica. Sì, funziona tra Bluetooth, ma è scarica. Quindi si sono 3. 3, 6, 18. Dobbiamo semplicemente vederci. 18. 21, è il più concentrato 26... di tutti, vorrei dire solo questo. Esatto. È il più sul pezzo di tutti. 47. Ok, annichilisci una alabarda. Ora agiscono le sue sorelle. Non potevo attaccarne anche un'altra, vero? No. Sì, in realtà hai usato tutti i tuoi attacchi o ne hai ancora? No, li ho usati tutti, però... Non sapevo quante erano. Erano 10. Hai fatto, hai detto 49. 47. 47, allora. Sono tutte due. Ne segui due tranquillamente. Ottimo. Bene. Signora Labarda, prenda 8 dadi da 20 facce e li tiri. Chi è il signora Labarda? C'è noi? Fabbro. Devi fatto. Prendere 8 dadi da 20. 8 dadi da 20. 3 li hai, 3 li hai qua. Tutti quanto di Vez. 5, 6. 6? No, quello è un di 30. Questo è di 30. 6. 6. L'ho detto, conta le facce. 8. Dai, prendi un altro normale. Vai, togli quello gigante. E tira questi. Una alla volta, dimmi i risultati. Una alla volta. Una alla volta, devi dire i risultati. Adesso Damada ce li tira. Che 20. 20, sbam. Naturale? Sì. Secco. 13, sbam. Sì, sì. Questo è la parte. 12. Vada, fermati. Aspetta, questo. Vabbè, ho capito, no, questo è tratto, questo è tratto in un fazzoletto di Vez, non è decifrabile. Un nuovo PG. 12. Comunque. Secondo di fila. 2, non benissimo. 2. Sì. Oh. No, va bene. 4, ok. 4, non benissimo. 4. 20. 17, questo bene. L'ultimo. Ok, l'ultimo. 20. Bene, no? Fuori puttana. No? Sì, beh, si stanno ammazzando, okay. Queste alla base. Sono quello che tirano contro di noi. Ma dovevi dirmi che dovevo farli bassi? Io mi sono sforzata per farli alti. Vabbè, ora così capita. Hai fatto una benissimo. Scusa. Anche no, se... io non lo sapevo. Di no, pensavamo lo di fare i numeri alti. No, Katta... Va bene così. Allora. Katta avrebbe probabilmente tirato almeno 4-20. Cioè, non li avrebbe tirati, però li avrebbe fatti. Diciamo così. Che sei... Ok, allora mi tiri due dadi da 10. Mi chiamate, dovresti giocare. Due dadi da 10. No, bisogna prendere i dadi da 10. Adesso abbiamo cambiato l'obiettivo. Questo è da 10. Sì, però trova quelli singoli. Sono più belli. Questi? Cioè, senza il doppio zero. Aspetta, tipo, ne vedo uno lì. Questo? Con le rune. Quello sì, e poi ce n'è uno nero con le rune. Questo no. La scelta dei dadi diversi. Tra l'altro nella scatola diversa dove ce n'è pochi. Tu eri di 10. E scriviamo. 1 e 4. 1 e 4, bene qua. Bassi. Okay. 1 e 4 va bene. Adesso subisci 5 danni. Come tra 10 minuti? Siamo appena arrivati al castello di Gondor. Sì, perde punti ferita temporanei. Arriva Gollum. Ok. Gollum. Vabbè, no, scusate, posso interrompere un attimo il gioco per una, sì, prego, una domanda per capire meglio. Ma Arci dove cazzo è? a rubare dalla donna. Dalla donna? Dalla donna. Così disse. Dalla nonna. Così disse, no. Dalla donna? Sì. Dalla sua ragazza. Dalla sua attuale ragazza. Attenzione, clamoroso. Dalla donna? Non mica detto. Giulio forse la sa. Va bene, ok. Rega, vi ringraziamo per questo momento. Ciao. Di alto Dungeons and Dragons. Grazie a voi. Di quelle cose che... sapeva anche il nome del gioco. Devi tirare tipo 20.000 danni. Qua vi dico solo che Vez sotto intelligence a 10. Non so se dovevo dirlo, ma nel caso l'ho detto. Purtroppo lo sappiamo. Lo sappiamo. Ok, buonanotte. Tante care cose. Buonanotte. Ciao. Va bene. Ragazzi, vi saluto. Franco, ci vediamo. Ciao. Beh, ha tirato bene però, amici. Ci vediamo venerdì. Esatto. Tu venerdì vai là, però vabbè. Vabbè, dai, dopo vi raggiungo. Certo. Dai. Grazie. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Quello prendilo. Buon okay. Rientro. Ciao. Mentre altre due alabarde che ti attaccano ti mancano. Una alabarda attacca sfortuna. Quanto hai di classe armatura? 14. No, ti sento. Ti colpisce. Ma posso dirle che è molto brutta e cattiva? E quindi abbassi il suo danno, abbassi il suo tiro per colpire. Il tiro per colpire. Beh, se ho due tiri da tenere, poi gli avrei fatto. La Manda ha fatto un numero di 20 sconvolgente. Lo abbasso di 2. Ti manca. Garrosh, 2 alabarde ti attaccano e ti mancano. Bardistran, il 17 e il 20 che ha fatto, te li ho tenuti per te. Beh, c'erano due eventi. No, solo uno. Uno se l'è preso Giulio. Ah. Uno l'ho preso io. L'altro invece ha il tuo nome scritto sopra e fa 13 danni e poi un colpo normale che ne fa 5. Bene. Giulio, tieni tu? Sì, sì. Questo è perché volevi fare athletics per nasconderti. Non te la fa passare ancora. Abbiamo avuto anche gli ospiti in sessione oggi, che mi ricorda che devo comprarmi uno sdoppiatore di cuffie per eventuali... Aspetta, possono... Alla fine hai perso solo 5 punti perché avevi 13, avevamo tutti 13 temporanei da sfruttare. 13? Le alabarde non possono sentirmi, vero? In che senso? Ah, per fargli... Non posso farlo. Cosa? Ma è tutto... non vorrei dire, è tutta la campagna che parliamo con delle armi. Esatto, cioè le alabarde non potrebbero neanche muoversi da soli, andiamo a essere. Sono dei costrutti, tu cosa che gli volevi fare? Parole taglienti, che non funziona se la creatura non mi può sentire. Cavolo, però non abbiamo fatto una storia, peccato. Potevo fare la storia, niente, non ho fatto la storia. A quanto pare non deve capire il mio linguaggio, deve solo sentirmi. Allora, lui è immuno a Plant Death and Frightened. Sì, direi che vedendo che è tipo immune ad essere assordata, immagino che per lo stesso motivo. L'apparato uditivo. Quindi sì, lo becca, quanti danni subisce, sfortuna? No, sfortuna... no, era questo. Sì. Che non, perché aveva abbassato il livello del tiro. Esatto, subisce 4 danni. Bravo, miei punti ferita temporanei. Prenditi un inspiration sul per l'onestà. Ce l'ho già l'inspiration. Appunto. Catta dai bonus okay. Solo quando ormai non servono. Sfortuna. Che gli ho promesso un inspiration. Esatto. Sfortuna, cosa fai? Sono ingaggiato in corpo a corpo. Riesco a fare una sfera prendendo solo le alabarde con un fairy fire? Fuoco fatato? È sicura che invece quello funzioni? Beh, non devono semplicemente esistere per il fuoco fatato. Perché vengono ricoperte di sberluccicume? Com'è che funziona? Sì. Vengono ricoperte di sberluccicume. Ah, allora stavo pensando a un'altra cosa allora. Se falliscono, tiro salvezza sulla destrezza. Che area è? Un cubo di 20 piedi. Ne riesce a prendere 6 su 8. quelle al centro. Va bene, grazie. Quindi tirano destrezza, classe di difficoltà 16, destrezza più 4, quindi lui lo passa. Due lo passano e 4 no. No, scusa, 3, 16 lo passa. Quindi avete vantaggio per colpirne 3. Ok, erano... Quali sono le 3? Sono le due sono su di te e una è quella su Sfortuna. Ok. Bene. Fai altra cosa nel tuo turno, Sfortuna? No. Ok. Vardistran. Direi che colpisco le alabarde, direi, giusto? Siamo giusto. Qui per distruggerle, se possibile. Allora, tiro un può farvi distruggere 21 per colpire. Ok, questo posso ritirarlo. 15. Ok, allora gli faccio 16 danni. Ah, che ironia. Allora gli faccio il secondo. Dove faccio 24 a colpire a un danno solo. Ok, posto. Classico. Questo era Vardistran. Fai qualcos'altro nel tuo turno? E direi di no. Ce n'è uno addosso, quindi se mi muovo mi prendo attacco comunità. Garrosh. Posso caricare? Sì. Ottimo. Allora carico, Vadinira. È una domanda o un'affermazione? Ah, ok. Vadinira è un'affermazione, ci stavo pensando. Ah, esatto. Sì, non ne ha due contro lui, no? Contro chi sono le alabarde? Sì, ne ha due contro. Nessuno... Ah, ok. Se ti hanno mancato. Non può caricare allora. Lui lo... Io corro sui muri, corri sui muri. In questa precisa posizione lo può fare. Io trattengo il fiato perché di Athletics. Fatto. non lo so, dimmi tu. C'entra i due nemici contro, cioè dovresti subire un attacco di opportunità. Questa comunque sì, dovrebbe subire di più. Che ironia. Sì, è vero. Ma lui non ha chiesto se può non subire attacco di opportunità, l'ho detto io carico. è vero, scusate, no, avete ragione. Giulio, sì, lui prende gli attacchi di opportunità, poi prende la rincorsa e carica e prende altri attacchi di opportunità. Sì. No, va bene. A me va bene subire l'attacco di opportunità e caricare. Comunque. Sono io che ho presunto che di non cercare di non subire attacchi di opportunità. Che cagata. Invece è sbagliato. Ti mancano, Garrosh. Fai visto? Pure. Giulio? Carico. Sì, no. Visto. Giulio, non c'era più la manda a tirare, quindi può farlo. Col primo attacco 15 danni, col secondo attacco quello extra perché ho caricato, colpisco e faccio 18 danni, quindi sono 33. Distrutto. Ok, attacco l'altra con l'ultimo attacco, colpisco, sono altri 10 danni. Ok, è ancora non in piedi perché fluttua, però hai capito. Yes. Le mie due ho vantaggio, vero? Direi di sì, Fairy Fire fa quello, no? Sì. Allora. La fortuna è che ho l'arma magica. Quindi 22 e quindi tiriamo prima questi che sono. Tu sei champion, no? Sì. Il tuo critico è un 18 o un 19? 19-20. Infatti prima ho fatto 19. Ai primi due attacchi ho fatto 10-24 danni. E una l'hai segata. E il terzo... Te ne sono rimaste? Ne avete segate 3. Il terzo faccio il 15 giusto. Per fortuna che vantaggio. Esatto. No, tra l'altro ho fatto 1 e 8. E ho tirato uno di danno, più 7, 8 danni. Ok. Le spade rimaste attaccano. Due su Atanas. Scusa, una l'ha uccisa, non è rimasta una su me. Ce ne avevi tre. Ah, ne ho tre. Ok. 16 ti colpisce? No. 18. Allora ti mancano entrambe. Una su sfortuna. Sono accanite contro di me. Già ne ho uccise tre, ne ho tre conti. Perché ne hai uccisa una e quindi volevano vendicare l'altra. No, ne ho Garrosh... uccise due all'inizio. Ah, giusto, ha maggior ragione. Garrosh, quella contro di te ti manca. Vardistran. Critico. Ah, ok. Non 11 danni. Ok. Bene. E la torre continua ad agitarsi, contorcendosi e scossando. Quindi chiunque di voi non è supino o aggrappato a qualcosa, fa di nuovo il tiro salvezza sulla destrezza. Ricordate che avete il bonus diverse, del paladino. Sì, sì, sì. 22. 14. 15. Mamma mia. Muoviamoci. Sfortuna. Dopo però io vado a carponi. 18. Perché Atanas? Così non 22. Devo tirarlo. L'ho superato. 14 tutto. Basta. La CD è 10. Tipo nella 3.5 ci saremmo già tipo tutti messi a sdraiati a combattere, tanto era più vantaggioso. Esatto. Sdraiato okay. A suonare qualcuno esatto. Dovrebbe emulare un grande. Esatto, sfortuna. È il power slave, no? Quando vai in scivolata e fai l'assolo. 22 e 15 per 2 Eldritch Blast. Io ho suono. Hai tirato con svantaggio? O no, se no, se te colpisci quella con cui stai che ti sta attaccando, è il tiro normale. Quindi va bene così. Quanti aspetta, ma è vicina, quindi ho... Hai svantaggio, ma se le attacchi quella hai vantaggio, perché hai Fairy Fire. Giusto. Quindi... Giusto. Ok, quindi 15 e... non mi ricordo più. 22. Però attacco 22. Quelle di Giulio, quella di Giulio. Ah, ok. E anche quella ma mi sarà... dà vantaggio. Allora lì hai sì, vantaggio. Sì, 15. Per 10 e 9, quindi 19. Da 19 danni? Sì. Muore. Questo era sfortuna. Fai qualcos'altro? No. Vardistran. Ok, provo a vedere cosa succede con quella di fronte a me. Faccio un bel 14, quindi lo manco. Secondo attacco 16. Colpito. Di poco lo colpisco. Sì. Non so, vabbè, ritiriamo da sto 2. Ah, bene, l'ho preso bene. Sono 18 danni. Oh, saccate. Garrosh. Quante ne sono rimaste, quindi? Una su di te, una su sfortuna, una e su una Atanas. Su ok, intanto carico la mia, quindi attacco di opportunità. Ti manca. Allora, cazzo, un fumble. Vediamo cade giù. Cade giù. Giù. Qui? No, fumble nel senso che lo manco. Giù. Poi. 15 colpisce, sì, era 15 però. Era proprio 15. Esatto, mi è andata bene. Non me... sarebbe caduto giù, però vabbè. 16 danni e poi con l'ultimo colpisco e sono altri... 14 danni. Vabbè, avrei avuto un punto ferito. Uccise. Atanas. Attacco quella di fronte a me. Però, per fortuna che ho la arma magica, ma 6 e 7. Beh, però aspetta, in realtà, scusami, quella di Shion non era già stata danneggiata. Una l'ho già uccisa, questa era l'altra. Ed era zero. No, sì, era... c'era ancora. Aveva dei danni, ma... Il primo attacco 13. Quello che voglio dire è che col primo attacco, se ne aveva dei danni, l'ha spazzata via perché ne ha fatti 16. Quindi il secondo Ma vicino a lei non ne aveva un'altra perché ha già usato tutto il movimento per caricare. Quindi è in primo attacco 13 danni. Conchierito 13 sul cadavere. Danni. Guadagno un livello. Secondo attacco 11. E sono in ira, quindi. E poi ucciso, attacco su Sfortuna, che dovrebbe essere vicina. Esatto. È vicina, sì. Sì, no, riesce ad arrivarci col tuo movimento. Sfortuna, Atanas. Ecco, 15 piedi da te. Critico. Perfetto. Un altro 19. E sono... Che schifo. 2... più 7, ok. 9 più 7, 16. Non uno di più, non uno di meno. Ok. Questa spada ti attacca in un ultimo tentativo di vendicarsi e fa un critico. Occhio per occhio, critico per critico. Vabbè, 4 danni. Vabbè, 46 danni. Ok, la torre è scossa di nuovo, quindi chi non è supino come Atanas deve fare di nuovo la prova di destrezza, la tiro salvezza sulla destrezza. Perché sono supino? Vardistran, che palle. Okay. Sono supino? Sempre. 14. In effetti ci sta che io me lo sia messo. Sì, sono supino, basta. Ma quando sei sdraiato quello? Allora, è caduto. In effetti sì. L'avevo detto, però. Sì, l'avevo detto in gag. Dopo che attaccato. Sì. Hai modo di provarlo? E scusa, è geniale. Vabbè. 17. Dopo quindi. Mi metto supino. Me l'ha detto così per dire. Ha fatto bene. È onesto. Sfortuna. Ho fatto 18 comunque. 18, sfortuna. 13. Ok, riuscite tutti a rimanere in equilibrio. Sfortuna, tocca proprio a te. Ok, allora mi sdraio, tanto svantaggio lo stesso, e faccio Eldritch Blast alla spada che ho davanti. Tanto hai vantaggio, quindi si annulla. Tanto svantaggio, quindi si annulla. Vai, me dice. Adesso 13 e 17, quindi 17 colpisce. 17 colpisce. No. Ah beh, tanto è un PF, muore. Adesso 5 danni. Vez adesso deve fare un tiro di athletics per trattenere il fiato e fingersi morto. Spezzate l'ultimo alla barda che vi stava attaccando. E... Davanti a voi, appunto, c'è questo globo luminoso, tipo palla da discoteca, no? Ha una luce molto... Guardando le pareti, le alabarde sono finite proprio, non ne vediamo più appese alle pareti. Appese alle pareti ce ne sono ancora ad andare per tutta la lunghezza della torre. È pieno, ok. Non ce ne sono altre che vi stanno attaccando. Questo bagaglio fluttua in mezzo alla stanza, quindi... Quel bagaglio fluttua? Ci sono? Ci sono dei ganci, degli appigli. Al quale questo è attaccato? No, al quale noi possiamo attaccarci. Adesso che non dobbiamo più combattere. Siediti, Giulio. Ah, alle pareti, tipo. Sì, tipo dove i supporti alle alabarde. Siedi con me, Marco. Ci sono i supporti delle alabarde. Perché fa, vieni. Siedi, io mi attacco a uno dei supporti di una alabarda vuoto, piena, non so, lì. È sufficiente volendo anche gattonare per non rischiare di cadere. Con una dignità. Non tutti. Che fa parte sul terreno, come dire, vieni qui, è comodissimo. Giulio, cazzo ne frega. Vabbè, tanto ci sono pieno di alabarde attaccate alle pareti, io uso quelle, cioè, sto attaccato alla parete. Ma noi più che altro che ce l'abbiamo davanti sto bagaglio, solo che non possiamo colpirlo, mi sa. Dobbiamo finirci sopra per raggiungerlo. Ci serve avere una portata di almeno 10 piedi, quindi una lancia o qualcosa, se lo si vuole attaccare in corpo a corpo. E se no ci si potrebbe arrivare sopra? Quanto è grande? Cioè, nel senso... Il cuore è grande... No. E hai laggato il muscolo? Aspetta, ripeti, hai laggato. È come il teschio di una strega che sì, si rimpicciolisce. Esatto. È un cristallo del diametro di 10 piedi. Ah no, vabbè, grosso. Che galleggia al centro della torre. Vabbè. Prendo una alabarda e ci salto sopra. Esatto. Cioè, ok, prima chiedo, guardo quelli che sanno di magia e dico cosa dobbiamo fare. Se vuoi ti leghiamo una corda, però vedi tu. Io dico che dobbiamo saltarci sopra. Ah, quelli che sanno di magia. Quelli che sanno di magia è coso, Marco. Ah, io non è che so di magia. A me mi hanno dato la magia. Vabbè, per Tarak. Ma direi che saltarci sopra potrebbe essere un'idea carina. Va bene. Allora immaginatevi... Ok, arralletti Atanas che si lancia. Esatto, qua fa base, jumping. No. Lo farei. Non devo fare praticamente neanche nessuna prova perché col jump high posso saltare tranquillamente. Vabbè, jump long e jump se è largo 3 metri, in realtà non è neanche difficile arrivare. No, che io posso saltare così tanto. Ah, no, potrei fare no, la prova. Il problema è esatto che rischia di andare oltre. Oh no. Ma la faremo alla prossima puntata. No, finiamo con la prova di Athletics per vedere se atterro sulla cosa. No, non vuoi finire col cliffhanger di te a mezz'aria che sei lì? No, va bene. Oh, sì, magari sì, il cristallo si apre e lo mangia. No, dai, è più figo se. Vabbè, dai, finiamo col cliffhanger. No, è carino. Va bene. La prima cosa che la sessione comincerà con questo tiro di dado. Esatto. Quindi Atanas prende una alabarda. No, beh, alla fine la alabarda non la prende. Quindi no, se vuoi tirare alto, no, per principio. Se vuoi tirare alto per la prossima volta invita Fabbro. Esatto. Così fai di tirare alto. Ma io poi nel caos non ho capito. Si è messo qua e come ci ha fatto con la scheda? Niente. Si è messo lì a far così. No. Per me saltare sopra quel coso è una cagata. Cioè... Ma penso per tutti, alla fine. E poi che un salto di un metro neanche. No, cioè, è un salto di 3 metri. È un salto di 3 metri. Come di 3 metri? È una cagata. Cioè, c'è uno spazio di un personaggio. È una cagata perché io salto su 7 piedi. No, è sotto di noi ed è largo 3 metri. In realtà, no. Scusami, è vero. Nel senso, per raggiungerlo con un attacco serve una portata di 10 piedi. Se tu sei più in alto, chiaramente, di lui e ci salti sopra, però lui in realtà è nella parte alta della torre, quindi non è che avete molto spazio da cui saltare, salendo di più le scale. E forse la cosa più complicata è rimanerci sopra in equilibrio, se è sferi. Dovrà chi distruggerlo, in teoria, quindi poi dopo cadrà con esso. Esatto. Per questo gli dicevo di mettersi una corda, ma da quello che ho capito Giulio giustamente nello spirito del suo personaggio ha detto voi siete deboli, rimanete indietro. Esattamente, va bene, e quindi la puntata si conclude con lui a mezz'aria tipo che arrallenti. Oh, esatto. Si getta. Va bene, va bene, allora come minimo no, minimo è nell'altra campagna. Cioè, no, nel senso, più sfiga, io 10 piedi lungo li salto. Anche impegnandomi a cercare di non farlo. Qui sotto, nei commenti, lasciate scritto come andrà a finire secondo voi questo salto. Beh, scemo, è già finita la puntata, che cazzo vuoi che scrivo nei commenti? Porto dall'altra parte, dai! Sì, alla brutta la faccio da una parte all'altra. Va bene, riuscirà Giulio, riuscirà Atanas a raggiungere il coso volante in mezzo alla torre nella prossima puntata. Giulio raggiunge il coso volante in mezzo alla torre con le palline. Mentre io mi aspettavo che fosse un rubino, non che fosse una cosa gigante. Vabbè, sembrava comunque grande. Vabbè, siamo... per sicurezza, perché magari siamo ci saltavi, siamo per su una piattaforma. Questo tipo, in questo tipo di attività siamo diventati ormai esperti, quindi non ci preoccupa. Comunque, se vedi dall'immagine, è una specie di mini sole praticamente. Allora, questo era episodio 74 della Maledizione di Katta, nostra campagna di Dungeons and Dragons. Grazie per averci seguito, grazie agli ospiti che hanno partecipato a sorpresa qui con noi oggi, Lamanda e Fabbro. Grazie a chi ha partecipato, a chi ci ha seguito, a chi non ci ha seguito male, facciatelo. E vi diamo appuntamento ai prossimi episodi con Tycoons and Dragons e Rib GDR. Presumibilmente torneremo a lunedì con un Brian Perry. Sì, per due di fila. Per due di fila, attenzione. Forse non c'è bisogno. Perché forse dovrebbero bisogno. Avere... Allora uno. Domani te lo dico. Sul podcast... Con una o due di fila. Sul podcast invece trovate. Una di fila è difficile. Sul podcast invece trovate. Due di fila. Trovate sul podcast episodio 72 della Maledizione di Katta. E quindi continuate a seguirci anche sul nostro podcast, il più segnalato alle forze dell'ordine. Grazie ancora per averci seguito, ai prossimi episodi, e mi raccomando, non dimenticate suonate mai al campanello i vostri steroidi al gusto di bacche di goji. Via del carro numero 1211. Vabbè, su tre portoni lo trovi. Ciao a tutti.